Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo L'Isola di Ethel Fugard, John Cani e Winston Shona, traduzione e regia Marta Gilmore, con Oscar De Summa e Armando Iovino. Questo smettila di urlare, se quello viene qui siamo nella merda peggio di prima. Voglio Odosh, voglio portarlo all'ufficio. Deve leggere la mia sentenza, sono stato condannato alla galera a vita e non a morte. Per favore, Winston. Voglio Odosh. Ci ha fatto correre tutto il giorno, la vuoi smettere? Cazzo, John. John, che cos'è l'orecchio, ti sei fatto male? Aspetta, vieni qua. Non è messo malissimo, John. Cazzo, ci hanno veramente fatto il culo oggi. Giornale, radio e previsioni del tempo. Il potere nero è stato sconfitto da quello bianco. Il potere nero ha perso le scarpe e si è beccato qualche ammaccatura. Il potere nero domani correrà alla cava a piedi nudi. Le condizioni generali rimangono localmente invariate, con possibilità di precipitazioni e pioggia. Altrove clima sereno e caldo. Cazzo, John, tutta la sabbia che ho addosso è la stessa vecchia sabbia di mare con la quale giocavo quando ero piccolo. Era la spiaggia di San Giorgio, il primo giorno dell'anno. C'erano dune di sabbia con castelli di sabbia. Anche noi andavamo là, lo scorso Natale. No, volevo dire il Natale prima che mi arrestassero. Eravamo là, tutti quanti noi, a Onebush. La mia piccola Mon giocava con la sabbia, perché per Natale le avevamo regalato uno di quei secchiellini con la paletta. Sì. E beh, questa notte, questa volta è toccata veramente a me e a te. Ci hanno veramente fatto il culo. Io sono un uomo, fratello, un uomo. Ma se Odosh ci teneva a quelle carriole 5 minuti in più, questa notte su quest'isola ci sarebbe stato un bambino. Sì. Ho quasi pianto. Sì. Non c'era proprio modo che finisse tutta questa storia. È che... vero. Quando stamattina ha detto voi due, spiaggia, ho pensato, e va bene. Oggi tocca a me svuotare il mare in un buco, gli piace questo numero, ma quando ha puntato alle carriole ho capito che cosa aveva in mente. Prima ho riso, poi non ho riso più, poi ho pianto. Avevi un'aria così stupida, fratello. Era quello che voleva, John. Cazzo, e sarebbe potuto durare in interno. Io scavavo una buca e tu la riempivi con la tua sabbia. Tu scavavi una buca e io la riempivo con la mia sabbia. Cazzo, è più furbo di quel che pensavo. Se fosse stato Dio, John lo avrebbe fatto. Cosa? Ci avrebbe spezzati. Gli uomini si stancano. Ehi, senti che bel pensiero. Siamo ancora vivi perché Odosh si è stufato. E domani? Vedremo. Se domani torniamo ancora là. Se io sento quella carriola. Ancora la tua carriola. Arrivare con un altro merdoso mucchio di eternità. Vedremo. Winston, io ti ho odiato. E io ho odiato te. Ok, dov'è lo straccio? Da qualche parte, cercalo. Oh, l'hai usato tu l'ultima volta, eh? Ehi, l'hai usato tu. Guarda che non ci sono mica mogli qua, eh. Ma cercatelo guarda, tu il tuo straccio. Guarda dov'è. Ma metti che Odosh venga qui e lo veda. Di chi è questo straccio? Che cosa gli dici? È il suo asciugamano, signore. Ah, sì. Allora fai una cosa. Quando ti lavi, usiti la camicia per asciugarti. Ok, ok. È il nostro asciugamano, signore. Quello sì che sarà un giorno di merda. Ci hanno veramente fatto il culo oggi. Oh, ma metti che l'orologio del tipo della sirena fosse indietro. Potremmo essere ancora lì. Senti, tieni. Cosa? Mettili con gli altri. Cos'è sta roba? Per la collana di Antigone, metti questi chiodi con gli altri. Antigone? Ma vaffanculo, John, sono stanco, adesso lasciami stare. Non cominciare con le tue stronzate adesso, hai promesso. Guarda che sta venendo bene questa collana, Guarda, te la faccio vedere, guarda, Tre dita ed un chiodo. Winston, non cominciare con le tue stronzate adesso, hai promesso. Mancano 6 giorni alla serata, noi abbiamo promesso ai tipi di fare qualcosa. E questa Antigone va benissimo per noi, ancora 6 giorni e poi la facciamo. Ma Cristo, John, siamo stati giù alla spiaggia tutto il giorno. Odosh ci ha fatto correre, vuoi lasciarmi in pace? Ma vai a cagare, ma che credi che abbia corso con te? Anch'io sono stanco, ma adesso non possiamo tirarci indietro. Dai, su, 3 dita. È un chiodo! Sì, è un chiodo, sì. Cazzo, Winston, non si può andare avanti così in questa cella. Ascolta, là in fondo stanno preparando le loro danze di guerra, Azzurro. Di là stanno preparando le loro canzoni. E solo in questa cazzo di cella che non si fa altro che litigare. Oggi vuoi farla, domani non vuoi farla più. Come cazzo faccio io a sapere cosa devo dire ai tipi se domani torniamo alla cava, eh? Vaffanculo, lavati, tieni. Dai, Winston, potrebbe essere così bello, eh? Dobbiamo ancora imparare le battute, i movimenti. Dai, guarda, guarda come sta venendo questa collana. Tre dita... È un chiodo. Sì, è un chiodo, sì, chiaro. Sei proprio uno stronzo, Winston. Scommetto che ti sei dimenticato tutta la storia che ti ho raccontato ieri, eh? Te la sei dimenticata? Dai, ripetiamo questa cazzo di storia per l'ultima volta. Dai, chi è Antigone? Chi è Creonte? Antigone è la madre di Polinice. No, Winston, no, non è la madre. Antigone è la sorella dei due fratelli, non la madre. Quella è un'altra storia. Questo è tutto quello che sai dirmi? Ah, va bene, Winston, va bene. Questa è l'ultima volta. Giuro, Winston, l'ultima volta. Oh no, John! Ehi, io metto giù la trama per l'ultima volta. La scrivo qui per terra e se tu non la impari stanotte io farò un rapporto su di te agli anziani. E ricordati che quelli fanno sembrare Odosh e le sue trovate, una roba da scolaretti. Ma Cristo, John! Imparare a scavare per Odosh, imparare a correre per Odosh. Poi uno finalmente torna in cella e deve imparare a leggere Antigone. Vieni qui e stai zitto, perché se la smettessi di brontolare impareresti molto più in fretta. Adesso ascoltami. Ok, dimmi. Ecco, questo è il processo d'Antigone, va bene? Se lo dici tu. E chi è l'imputata? Antigone. Oh, nel frattempo hai preso una laurea. Chi è lo Stato? Creonte. Il re Creonte, Creonte lo Stato, benissimo. Adesso, che cosa ha fatto Antigone? Ha sepolto suo fratello Eteocle. No, Winston, no. Ha sepolto suo fratello Polinice, il traditore, eh? Quello che stava dalla nostra parte. Va bene? Va bene. Ok, scena prima del processo. Lo Stato fa la sua requisitoria e elenca le accuse, eh? Tu sai come si fanno, vero? Scena seconda. Dichiarazione dell'imputata. E come si dichiara l'imputata? Colpevole o non colpevole? Non colpevole! Senti, Winston, io non voglio litigare, eh? Tra di noi, in questa cella, noi lo sappiamo che non è colpevole, però nella tragedia lei si dichiara colpevole. No, John, no, Antigone non è colpevole. Nella tragedia, Winston! Fanculo la tragedia, Antigone ha fatto benissimo a seppellire suo fratello. Non dire fanculo la tragedia, perché noi dobbiamo fare proprio questa cazzo di cosa. Nella tragedia lei si dichiara colpevole, ficcatelo bene in questa testolina del cazzo. Ok, nella... John, fa come vuoi. Non è come voglio, è nella tragedia. Colpevole, colpevole. Esatto, colpevole, adesso lo scriviamo qui, colpevole. Scena terza, discorso della difesa. Scena quarta, discorso finale dello Stato. Sentenza e poi qualcosa di tuo. Il discorso di addio. Adesso imparalo. Eh? Imparalo. Ma l'abbiamo appena detto, John. No, no, Winston. Io l'ho appena detto. Adesso imparalo tu. Eh certo, certo. Imparare a correre, imparare a leggere, tiè. Non mi buttare addosso l'asciugamano, Winston. Dai. Dai, Winston, guardami. Vedrai che sarai fiero quando l'avremo fatto. Credimi, credimi, Winston. Anzi, vieni. Vieni a vedere questa cosa, guarda. Questo è il medaglione di Creonte. Bello, eh? Scusami, scusami, ti sto disturbando. Mentre tu impari a memoria la parte, io finisco la collana, ecco. Anzi, mi viene in mente giugno 1965. Cosa? L'Antigone, Winston, a New Brighton, alla St. Stephanol, era pieno di gente, tutta bella gente. In prima fila le autorità. Cazzo, quelli sì che erano bei tempi. Sai chi faceva Creonte? Giorgi. Giorgi faceva Creonte. Il maestro. Sì, lui. Piccolo, no? Basso, con gli occhi sporgenti. Oh, alla fine dello spettacolo era grande quanto una casa. Senatori! Ora che gli dei hanno tratto in salvo la nostra città da un uragano di guai verso un porto di qui... E il vecchio Mulligan, un altro maestro col culo basso, eh? Lui andava dalla regina, si metteva in ginocchio e diceva: Sua maestà, preparatevi ad una brutta notizia, ma non piangete, vi prego. E sai chi faceva l'Antigone? Lo so, adesso tu mi dirai che è una stronza, che è un'acida, è vero, però che gran pezzo di figa, la Nomle, eh? Te la ricordi la Nomle? È veramente un gran pezzo, io non riesco a togliermela dalla testa. La so! Cosa? L'Antigone cosa? Sei sicuro? Ce l'ho tutta qui dentro nella testa. Winston, sei sicuro? Io cancello quello che c'è scritto cancella, a terra. Cancella, cancella. Adesso guardiamo, eh? Va bene, adesso proviamo. Ok. Questo è il processo ad Antigone, va bene? Va bene. E chi è l'imputata? Antigone. Chi è lo Stato? Il re Creonte. Scena prima del processo? Antigone elenca le accuse contro lo Stato. Winston. No, John, no, John, non ho detto così. È lo Stato che elenca le accuse contro Antigone. Stai attento. Sì, ok, John, lo Stato elenca le accuse contro Antigone. Scena seconda. Dichiarazione. Scena terza. Aspetta, come si dichiara l'imputata? Colpevole o non colpevole? Colpevole. Scena terza. Antigone si difende. Scena quarta. Discorso finale dello Stato, sentenza e discorso di addio. No, Winston, no. Come no, John? È scritto tutto così. Winston, oh, ti sei John. Sbagliato. Ti prende in giro. Quanto ci è voluto impararla, brutto bastardo. Quanto ce ne hai messo, eh? Speriamo anzi di domani di tornare alla cava, perché ci sono ancora un sacco di cose che ci servono, eh? I costumi. Dobbiamo ancora preparare i ragazzi della 14. Sai cosa hanno detto? Hanno cercato di fregare un pezzo di gomme al molo, sì, per fare la tua, sì, parrucca, sì, sai? Sì, spero che ci torniamo domani là. Ma perché voglio cercare di far arrivare un po' di tabacco a Sipo. A Sipo? È tornato in isolamento. Ancora? Sì. Cazzo. Simon ha passato parola. Questa volta per cosa? Ha protestato per il cibo, John. Ha chiesto di vedere il libro del regolamento della prigione. Ma perché non lo lasciano in pace per un po', io dico, ma eh? Perché John è lui che non lascia in pace loro. Sai una cosa, Winston, sono proprio contento di non essere nella 22 insieme a lui. Sai perché? Perché quando uno incomincia ad essere incazzato duro come lui, succede sempre che nella merda ci vai a finire pure tu. Hai capito cosa sto dicendo? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa sta dicendo, Winston? Ah, John, sono stanco, lasciami stare. No, io sto dicendo non essere incazzato duro, tu. Quando Odosh domani mattina apre quella porta, tu di sì capo nel modo giusto. Perché io non ho nessuna intenzione di tornare alla spiaggia solo perché tu hai voglia di fare il difficile. Va bene, Johnny. Non sei mica da solo in questa cella, ci sono anch'io qui. Ah, e tu credi che io non lo sappia? La gente dovrebbe ricordarsi le responsabilità che ha verso gli altri. Ma sono proprio contento di sentirtelo dire, sai? Perché stavo giusto per ricordarti che stasera tocca a te. Che cosa stai dicendo, Winston? Non è stato forse ieri sera il mio turno? Ma come, non ti ricordi? Ieri sera ti ho portato al cinema. Cazzo. Cazzo, è vero. Ed era anche un gran bel film. Le pistole più veloci del West con Glenn Ford. Però secondo me tu mi hai preso per il culo, sai perché? Perché adesso tu mi spieghi come fa Glenn Ford a sparare all'indietro in mezzo alle gambe. Io ci ho provato oggi in spiaggia quando Odosh non guardava, eh. Senti, posso fare tutto quello che voglio? Tutto quello che vuoi. Tutto quello che voglio. Ti ho detto tutto, okay, quello che vuoi. Ok, bene. E signorina? Vorrei New Brighton. Il numero è 424626. Ma che cosa stai dicendo? Il mio è il locale. È il locale. Ma è il negozio, eh. Pronto, Scott? Sei tu? Sì? Indovina chi è? Esatto, bastardo. Madonna, cazzo. Sì. Siamo proprio noi. Sì. No, siamo ancora dentro. Ancora dentro. Però... Sì. Raccontami qualche cosa. Raccontami come vanno le cose lì, eh? Come vanno? Senti. Ma chi c'è? Chi c'è lì con Scott? Chi c'è lì con te? Chi c'è, eh? Chi... No, portala al telefono. No, portala, voglio parlarci. Ma chi è, John? Chi è? Sky! Sky! Passamelo, dai, passamelo! Aspetta, ci sto parlando io. Pronto, okay. Sky? Come va, eh? Chi? No, stiamo benissimo. Ah, noi qui abbiamo fatto un casino. Chi? Winston? Ma no, Winston sta benissimo, figo. Ma chi lo uccide, Winston? ha un problema su un occhio perché ha avuto un diverbio filosofico con Odosh, però sta bene. Dai, passamelo, dai. Aspetta, che ci sto parlando, capito, io, eh. Senti, Sky, Winston mi chiede di chiedere una cosa molto cosa? Importante, perché sono anni che te la vuole chiedere. Senti, ma come stanno le tue troiette? Dai, aspetta, ci sto parlando io. Senti, mi chiede anche un'altra cosa, eh? Cosa? Fai un salto giù a Dora Street da sua moglie, eh? Sì. E dille che va tutto bene. Dille che Winston dice che va tutto bene, sì. Che deve prendersi cura di tutto e di tutti, che le cose sono andate così, che però deve stare tranquilla, eh? E visto che sei da quella parte, fai anche un salto giù a Gratte Street, a numero 38, da Princess, mia moglie. Come le va? Chiediglielo da parte mia. Sai, sono 3 mesi che non scrivono per noi, vuol dire molto. Io voglio sapere come stanno i gemelli, se Mondo va ancora a scuola, mia madre, mio padre, si è ammalata la vecchia, eh? Devono dirlo, non devono aver paura di dirmelo, vogliamo saperlo noi, lo so che fa fatica a scrivere, ma per noi vuol dire molto. Oggi siamo stati giù alla spiaggia, il vento soffiava forte, la sabbia ci andava negli occhi, il mare era agitato, non sono riuscito a vedere bene la costa, ma domani forse torniamo alla cava, ha cominciato a fare freddo, ma il peggio deve ancora arrivare. ok? No. Ok? No! Senti, quanto ti ci vuole a vestirti da donna, eh? Posso aprire questi occhi? No! Dai, Winston, fammi aprire gli occhi. Posso aprire gli occhi? Hai messo la parrucca alle tette? Posso aprire gli occhi? Winston, li sto aprendo, eh? Li sto... Abbiamo della figa in questa cella. Fammi fare il trenino, per favore, mettiti avanti, mettiti avanti. Ciu, ciu. Fine, non la faccio. Prendi la tua Antigone e ficcatela nel culo. Aspetta, Winston. Non c'è niente da aspettare, amico, non la faccio. Per favore, Winston. Puoi ridere quanto vuoi, ma ficcati bene in testa una cosa. Io non faccio Antigone. E se per caso vuoi sapere il perché, io sono un uomo e non una donna del cazzo. Ma chi ha detto il contrario, dai. E allora di che cazzo stai ridendo? Io non sto ridendo. E che cazzo stai facendo? Piangi? E dagli questo ridere. Merda, John. Ma tu vuoi mandarmi lì domani sera a fare la figura del buffone del cazzo? Ma che cosa credi? Che io non lo sappia cosa succederà dopo? Tutte le volte che metterò piede alla cava. Eccola qua, sta arrivando Antigone. Beh, puoi andare a cagare tu e la tua Antigone. No, ma io non sto ridendo di te. E di che altro sta ridendo? Che altro c'era qui vestito come una signora a fare la figura del buffone? Ok, ok, ok. Non rido più. Ma va al diavolo! Dai, Winston, cerca di capire, questo è teatro. Ah, e tu ridemi dietro, lo chiami teatro? Allora va a cagare tu e il tuo teatro! No, no, adesso... No, John, aspetta, ficcati aspetta. Bene in testa una cosa. Aspetta. Io non faccio Antigone. Aspetta piuttosto, un John, corro tutto il giorno per Odo. Va bene, fammi dire una cosa però. So che cosa vuole da me lui. Lui vuole solo farmi diventare uno schiavo, okay. E non una donna del cazzo, capito? Va bene, no, allora fammi... di quello che cazzo, dire. Vuoi starmi a sentire? Vuoi parlare solo tu? Parla, parla, parla. Posso parlare anch'io? Parla. Va bene, ho riso, sì, ho riso, ma posso spiegarti perché ho riso? Posso spiegartelo? Questo è un esercizio di preparazione alla paura del palcoscenico. Sì, sì, sì, non mi guardare così, Winston. Questo è un esercizio di preparazione alla paura del palcoscenico. Ma tu credi che io non sappia che cosa stia facendo in questa cella? Lo so benissimo. È chiaro che quando gli andrai davanti loro rideranno. Rideranno, nio, nio, rideranno. Assolutamente. Ma ricordati una cosa, fratello. Nessuno ride per sempre. Arriverà il momento in cui smetteranno di ridere. E in quel momento la nostra Antigone li colpirà con le sue parole. Non mi frega un cazzo di quello che dici, John. Io non faccio Antigone. Winston, manca solo un giorno alla serata. Noi siamo inseriti nella parte migliore del programma. Non puoi tirarti indietro adesso. Credi che non posso? Aspetta e vedrai. Ma tu vuoi mettermi nei guai con gli anziani? È questo che vuoi? Io ho dato la mia parola. No. Stai tranquillo. Io non mi tiro indietro. Ah, così mi piace, Winston. Allora, eccola qua, Antigone. Qua ci sono le belle tettine, qua ci sono i capelli. Prendili. Tu fai Antigone e io faccio Creonte. Cosa? Cosa? Non hai capito che cosa ho detto? Ho detto beccati ste due tettine, io mi tengo le mie palle e faccio Creonte. No, no, no, no, aspetta un attimo, Winston, non lo puoi fare. Io ci ho già pensato l'altro giorno, ma adesso è troppo tardi per imparare le battute mi di Creonte. Mi dispiace dirtelo, John, ma io non ci posso fare niente. La tua Antigone non la faccio. Ma che stai dicendo, Winston? Va bene, vuoi che mi metto le tettine anch'io? Ok, adesso mi metto le tettine. Ecco, adesso mi metto anche la parrucca. Adesso guardami. No, no, no, guardami, Winston, guardami. Ecco, perché non ridi? Ridi, ridi, ridi adesso, ridi, guardami e ridi anche tu. Perché non ridi? Devo spiegartelo io perché non ridi. Perché sotto tutta questa merda, Winston, ci sono io e tu lo sai che ci sono io. Ma tu credi che quei bastardi là fuori non lo sappiano che ci sei tu, eh? È chiaro che rideranno all'inizio, ma chi se ne importa se rideranno all'inizio, se poi ascolteranno la fine? Perché è questo, ricordati Winston, che vogliamo che facciano, questo, soltanto questo, ascoltare alla fine. Non Winston. Mi frega un cazzo di quello che dici, John! Io non faccio Antigone! Winston, per favore... Per favore, tu me l'hai promesso. Ma va a cagare, John. Soltanto l'altro giorno vieni a dirmi che questa Antigone è una cazzo di leggenda. Una roba greca. Una cazzata che non è neanche mai successa. Non è neanche storia. Senti, fratello, io non ho tempo per le stronzate. Fanculo le leggende. Io vivo la mia vita qui. Io lo so perché sono qui. E questa è storia, non leggenda. Ho scambiato quattro chiacchiere con un giudice a Cradock e adesso sono qui. La tua Antigone è una storiella per bambini. Stai parlando amico. Come parla Odo. Ma vaffanculo tu e stai parlando come parla Odo, cioè quello che lui dice sempre, quello che vuole che diciamo per tutta la vita. Le nostre convinzioni, i nostri ideali, sai come li chiama lui? Storielle per bambini. Ogni cazzo di cosa che facciamo per lui sono storielle per bambini. Quando corriamo tutto il santo giorno sotto il sole, quando piangiamo, perfino quando caghiamo. Va bene, amico, va bene. Non la vuoi fare questa Antigone, me la faccio da solo. Nessuno può impedirmi di fare questa Antigone. Sta arrivando qualcuno. Via. Odosh! Mettiamo a posto, su, avanti! Mettiamo a posto, là! Su! Sì, signore! Va bene, signore, la seguo, signore! Ecco qua! Odosh! Odosh, bravo, bravo! Dagli una bella lezione, Odosh! Riempilo di botte, così si impara! Antigone, eh? Antigone è importante! Antigone qua, Antigone là! Con tutte quelle stronzate lì non si può più dormire in questa cazzo di cella! Winston! Polinice, Teucola, è importante, eh? Li senti? Anche gli altri detenuti! Nessuno ha un po' più di pace e di tranquillità per questa cazzo di Antigone! Antigone! Ecco, la dobbiamo fare, facciamola allora, dai! Prendiamo le tettine, eccola qua! Mi metto le tettine, mi metto la parrucca! Come si muove Antigone, come si muove? Dai, dimmi! Fa le posizioni, si stende a terra forse Antigone, eh? Che dice Antigone, figlia di Edipo, sono la sorella di Eteoca e Polinice! Io questa merda non la faccio! Ma adesso glielo dico appena torna indietro! Perché per una volta dovrà chiudere quella boccaccia di merda e stare a sentire me! Io non voglio litigare, ma come vero Dio, io questa merda di roba non la faccio. Perché se vuole una donna in cella, che mandi a chiamare sua moglie. E non me ne frega un cazzo di come fa. Perché io non ho bruciato il mio lascia passare del cazzo davanti a quel commissariato. E non mi sono fatto sbattere qui tutta la vita per farmi travestire da donna e farmi prendere in giro da quello là. Ma adesso glielo dico, appena entra da questa porta. Winston. Senti, fratello, io non è che voglio crearti problemi. Ma questa Antigone... No, John, per favore, Winston. Ascolta, giuro, non posso farlo. Ma voglio dire, proviamo qualche altra cosa, eh? Tipo, non lo so, tipo cantare o ballare, eh? Tu hai sempre un sacco di idee, John. Lo sai benissimo che io posso cantare o ballare. Ma Antigone no, per favore. Winston, ascolta. Dai, John, non litighiamo! Siamo stati troppo tempo insieme qui dentro per litigare per delle stronzate. Però tu mi conosci bene, John. Se c'è una cosa che non sopporto è uno che mi ride in faccia. Se io domani vado là, John, e quei bastardi incominciano a ridere, io rompo il culo al primo che mi capita sotto mano. Perché hai visto anche tu, John, che cosa è successo quando tu hai incominciato a ridere. Volevo romperti il culo, John, non sto scherzando, volevo proprio. Ehi, ma mi stai ascoltando? Winston, c'è qualcosa che devo dirti. Cos'è successo, John? È stato Odosh? Ti ha sbattuto in isolamento? Che è successo? Hanno emesso la mia sentenza d'appello mercoledì. Fra 3 mesi vado via. Fra 3? Mesi, vado via! Fra 3 mesi? Sì, è quello che ha detto Prisno, Winston! No. Winston! Fra 3 mesi fra vado 3 mesi. Via! Non ci posso credere! Cazzo, Norman! Norman! Mai sentito, Norman! John se ne va via fra 3 mesi! Aspetta, sì, gliel'hanno appena detto! Aspetta, Winston, lasciamela godere da solo per un po', eh? Glielo diciamo domani alla cava, per favore. Ok, dimmi tutto, com'è successo? Dio, voglio sapere tutto. Dio mio, Winston, sono così agitato. Aspetta, ricominciamo dall'inizio, allora, va bene. Allora, eravamo qui che stavamo facendo del gran casino. Anzi, che tu stavi facendo del gran casino. Gli abbiamo visto la porta che si apriva. Ho visto Odo, ci ho detto, cazzo, siamo di nuovo nella merda. È tutto per il casino che stavi facendo, eh? Allora, siamo usciti, siamo andati nel corridoio e l'abbiamo attraversato tutto dritti fino alla numero 4. Isolamento pane d'acqua, ma lì, anziché girare a sinistra, abbiamo girato a destra, nell'edificio principale. Lo abbiamo attraversato tutto fino all'ufficio di Prislo. Prislo! Te lo sto dicendo, amico. Abbiamo aspettato fuori per un po'. Poi a un certo punto Odosh mi ha spinto dentro. Princeton era dietro la sua scrivania, occupato con delle scartoffie. Sai come fa lui? E ne ha tirata fuori una, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: "I tuoi avvocati, hanno lavorato bene al caso, eh? Ti hanno ridotto la pena. Fra 3 mesi te ne vai, da 10 a 3 anni. Odosh, che cosa ha detto Odosh? Niente. Però aveva un'aria così infelice. Anzi, sai una cosa? Sono tornato qui da solo, non mi ha seguito. Ma certo, John, perché tu adesso sei libero. No, Winston, aspetta un attimo. Ho paura, casomai tutta questa storia non è che un trucco. Ma che stai dicendo? Hai detto che hai visto Prince, lo sì, so? Sì, ma qui fanno di tutto per farti crollare, no? Se non ce la fanno con la cava, con la spiaggia, provano altri metodi. Ti ricordi l'altra volta, alla vista delle mogli, ci hanno fatti mettere tutti in fila da un lato. Ho detto, adesso guardate i vostri mariti, salutate e tornate per in cella, no? Hai detto che hai visto Prinslow, John! In persona. Quel figlio di puttana non si è nemmeno alzato in piedi quando sono entrato. Glielo dovevo dire! Ad ogni modo, Winston, io ho firmato. Ho firmato un documento che diceva... Hai firmato? Sì, che ero stato informato dell'esito del mio appello. Hai letto tutto quello che hai firmato? Sì, c'era scritto. Che io sapevo che fra 3 mesi dovevo uscire, c'era scritto. Hai scritto, John? Ho scritto il mio nome. John, sono 3 mesi, John! Oddio, Winston, Dio. Alla fine di questi 3 mesi sono 3 anni che siamo insieme in questa cella, eh? 3 anni fa io ero davanti a un giudice. E quello ha detto 10 anni, senza nemmeno guardarmi negli occhi. E io ho visto 10 anni della mia vita volare via come il fumo di una sigaretta, mentre quello agitava il culo e se lo grattava. E poi la stessa notte, con il camion della prigione, sono tornato alla mia cella di Ruil. La prima volta che ci siamo incontrati. Eravamo appena tornati dal nostro processo a Cradock. Tu, Temba. Cibo. Cazzo. E ti ricordi la prima volta che siamo stati insieme il mattino dopo, nel cortile? Ah, quando sì. Ci hanno messo in fila sì. Per i camion. Oh. E ci hanno sposati lì, Ma te lo ricordi quel vecchio nell'angolo ammanettato con Sipo? Con Sipo? Sì, quello che ha cominciato a cantare. Peter, Tatu Peter, Lui. Cazzo, mi sta tornando tutto alla mente. Quando abbiamo attraversato il cancello grande, le mogli e le madri che correvano dietro i camion per poterci lanciare un ultimo saluto e noi dentro a fare pugni per poterci affacciare dal finestrino. Cazzo. Cazzo, davvero, Winston. Scommetto che ti sei dimenticato la canzone che cantava il vecchio, Sì. Stimela, si ambaga malage, si veleta la guvai, shu, shu, shu, shu, sa che la tawa gota. E va e badusi su ba malage su ba malage stimela si ambanga malage si veleta la guva ya ya ya shu shu shu shu sa che la tawa gota. E va e badu zizu ba malage so ba malage ma quando siamo passati per Umasdorp nessuno cantava più. Ma quale cantare? Io volevo pisciare. Avevo fatto un errore partendo da Ruil. Avevo bevuto 5 galloni d'acqua pensando a quelle 500 miglia davanti a noi. Ma eravamo dentro questo camion, con un secchio in un angolo, eravamo così stretti che non ci si poteva arrivare, così me la son tenuta, ho provato a tirarti, ti ricordi? Me la son tenuta a Stormstrieve, Braukranz, e poi a Nasna, vaffanculo, l'ho lasciata andare. Che cazzo ti sta ridendo, anche tu te la sei fatta addosso. Ma non è vero. Diciamo che da Giorgi in poi nessuno era asciutto, Te la ricordi la fermata che abbiamo fatto lì? Certo, speravo ci avrebbero fatto sgranchire un po'. E invece manco per un cazzo, pieno di benzina e via. Ti ricordi i detenuti del posto, i Colored? Che si affacciavano dalle finestre delle loro celle e gridavano coraggio, fratelli, coraggio. E poi ci siamo addormentati così, in piedi. Cosa vuoi dire così in piedi? Era impossibile cadere. E poi il molo, il battello. Io non ero mai stato su un battello, non c'avevo niente da vomitare, ma Cristo se ci ho provato. E io allora? E poi abbiamo visto questo posto per la prima volta. Era quasi carino con tutta quella foschia attorno. Stavo troppo male, fratello, per vedere qualcosa. Ma tu ti ricordi che cosa hai detto quando sei sceso dal camion giù al molo? Parole pesanti, Winston. Ti sei voltato indietro verso le montagne. Addio Africa. Io non dimenticherò mai quelle parole. Sono passati 3 anni. E adesso per te mancano 3 mesi. Cazzo, Winston. Andiamocene a dormire. Dai, andiamocene a dormire. Poi all'Antigone ci pensiamo domani e... Senti, ma secondo te la mia famiglia l'hanno avvertita, eh? Secondo te Princess, i bambini sanno che io fra 3 mesi devo tornare a casa? Magari anche loro sono lì che dicono fra 3 mesi, eh? Mi sa che questi 3 mesi mi sembreranno lunghi come 3 anni. Il tempo passa ad agio quando ho qualcosa da aspettare. Oh cazzo, scusami, Winston. Scusami davvero, senti, andiamocene a dormire, eh? Magari tutta questa storia è solamente un trucco, vedrai. Stanno facendo così solo per farci crollare. Andiamocene a dormire, di Antigone, poi ne parliamo domani, va bene? Adesso, tanto è sicuro, domani torniamo alla cava, va bene? Dormiamo, Winston. Dormiamo, per favore. Thank you. lontano. Oh, cazzo, Winston, mi hai spaventato, credevo dormissi. Adesso hai incominciato a contare i giorni. Sì. Quanti? 92. Hai visto? È facile, ci sono 20 giorni questo mese. 30 giugno, 31 luglio e ancora 11 ad agosto. In tutto fa 92. E domani? 91. E dopodomani? 90. E poi diventeranno 80, 70 giorni, 60. Soltanto due mesi, Winston. E poi 50, 40 giorni, 30. Un mese, soltanto un mese. Poi 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, domani. Vacci piano, il tempo non passa mica così in fretta in questo posto. Ma non ti terranno qui tutti e tre i mesi? No, Winston. Solo due mesi. Poi giù dritto a prendere il battello. E dirai addio a questo posto. E giù dritto a Victor Verster sul continente. Là la tua vita cambierà. Lo sai perché? Perché? Perché non porterai Odosh con te. Lui resta qui con me. Te lo regalo, Winston. Mi metteranno a lavorare ai vigneti a Victor Verster. Non ci sono mica le cave là. Mangerai uva ed arance. E cambieranno la tua dieta. Dieta C ed esercizio fisico. Così avrai un ottimo aspetto quando alla fine ti lasceranno uscire. E alla sera giocherai. Tombola, dama, dadi, scacchi. Poi un giorno ti porteranno in ufficio. E lì ci sarà un camion che ti aspetta per portarti di nuovo indietro, le stesse 500 miglia. Ma questa volta non dovrai stare in piedi tutto il tempo come venendo qui. No, e non sarai neanche ammanettato. Forse si fermeranno addirittura lungo la strada per farti pisciare. Ma finiscila, Winston. Sono sicuro che lo faranno. Faranno anche una sosta da qualche parte per farti dormire. E poi, finalmente, Port Elizabeth. Di nuovo la prigione di Ruil. Immagina, John. Lì sì che sarai vicino a casa. New Brighton è a due passi. Dalla finestra della cella sentirai la gente andare su e giù per la strada. E poi sentirai il rumore degli autobus. E passerai un'altra notte che non potrai dormire. Perché starai contando. Ma non più i giorni come adesso. Allora conterai le ore. E il mattino dopo, John. Quel mattino meraviglioso. Ti porteranno dritto dalla tua cella all'ufficio rilasci e lì ti daranno una nuova camicia khaki, dei pantaloni lunghi khaki e delle scarpe marroni. E le tue cose, John, mi stavo dimenticando le tue cose. Io avevo un paio di pantaloni neri, delle scarpe marroni, una camicia bianca, la cravatta e un orologio. Quello era di mio padre, lo rivoglio. Avvolgeranno tutto in un pacco, John, e te lo lasceranno portare sotto il braccio fin fuori al cancello. New Brighton sarà lì ad aspettarti. Tua madre, tuo padre, John, Princess e i bambini. E quando tu uscirai fuori dal basta, cancello... Basta, Winston, per favore, basta, lasciami Ma non stare. È finita, John. Non finisce mica qui. I tuoi ti porteranno a casa. Grattan Street 38, ricordi? Ti staranno aspettando tutti, John. Zie, zii, amici, vicini. Ti faranno accomodare su una poltrona, John, come un re. Ti daranno tutto quello che vuoi. Torte, dolci, roba da bere. Basta, e da quel Winston. Punto, John, tu gli ricomincerai a raccontare. Gli racconterai di questo posto, della cava, di Odosh e del tuo caro amico Winston favore, che hai lasciato lì. Ma Winston, non sarai ancora contento, John. Winston, perché basta, avrai per voglia favore. Di una scopata. Ma di una scopata selvaggia, John. Ed è per questo che quella sera sgattaiolerai dalla porta di dietro e te la svignerai giù da Sky. Winston, immagina, lascia... John, tutti gli amici che ti aspettano. Lasciami stare, George, Winston. Mangi, Visumzi, ti faranno prendere una bella sbornia, John, perché loro sanno cos'è la galera e si occuperanno di te e ti lasceranno da solo in una stanza con una donna. Tu la sentirai, John, ti toglierai i pantaloni e le andrai vicino. E la sentirai, John, perché sarà bagnata, fica bagnata. Winston, John, e te la incomincerai a scopare come un pazzo, John. Hai capito? Se la Winston, lasciami stare! Perché mi stai punendo, Winston? Puzzi, John. Puzzi di birra. Di amici. Di fica, di libertà. La tua libertà puzza, John. E questa cosa mi fa diventare matto. No, Winston. Sì, non negarlo, John. Tre mesi a questa parte ti starei sbrodolando di birra. Con una mano sui coglioni e una fica che ti aspetta. Una risata. Una bevuta. Una scopata e ti sarai dimenticato. No, Winston, non no. Prendermi per il culo, John. Non abbiamo più tempo. Mancano solo due mesi. Sai dove sono stato, John, oggi? Alla cava, vicino al vecchio Harry. Te lo ricordi il vecchio Harry, John? Sì. Sì, cosa, John? Parla! Il vecchio Harry, c'è la 23, 72 anni, ergastolo. Non è di questo che sto parlando, John. Quando domani vai alla cava, da un'occhiata al vecchio Harry. Guardalo dritto negli occhi, John. Guarda le sue mani. Lo hanno cambiato. L'hanno fatto diventare pietra. Guardalo lavorare col martello e con lo scalpello. 20 perfetti blocchi di pietra ogni giorno. Nessun altro riesce a fare come lui, John. E lo sai perché? Perché lui ama la pietra. Ed è per questo che sono gentili con lui, John. Perché ha dimenticato se stesso. Ha dimenticato tutto. Perché è qui, da dove viene. Ed è quello che sta succedendo anche a me, John. Ho dimenticato perché sono qui. Perché sono qui, John? Winston. Winston. John. Perché sono qui? Winston, perché ti sei fatto il culo per gli altri? Vaffanculo gli altri, John. La libertà dei nostri bambini, vaffanculo, Winston, i nostri bambini, slogan, i nostri ideali. Politica, vaffanculo tutto, John. Perché sono qui? Io sono invidioso della tua libertà. Voglio poter contare anch'io, John. Dio ha dato 10 dita anche a me. Ma che cazzo posso contare io, John? La mia vita. Come cazzo faccio a contarla, John? Arriva un giorno, uno. Arriva un altro giorno ancora, uno. Questo viene aiutami, qui. Aiutami, fratello. E lasciami, John. Dimenticami. Perché io sto per dimenticarti, John. Ne verranno altri qui. Che conteranno come te e se ne andranno come te. E io li dimenticherò. E poi ne verranno altri ancora. Che conteranno come te e se ne andranno come te. E io li dimenticherò. E poi un giorno sarà tutto finito. Sei pronto? Io sì, tu sei pronto? Certo che sono pronto, ne sai le battute. Certo, ma che lo dici a me, dai. Dai, allora andiamo che faremo tardi allo spettacolo. Su, avanti. Sei sicuro che le sai tutte le battute? Ti ho detto che le so tutte, le ho ripetute giusto ieri sera. Prendi il tuo costume che è là dentro, prendi il tuo costume. Dai, dai, passamelo, passa. Ci sei? Sì, sì. Passami il medaglione di Creonte, te lo ricordo. Ma la parrucca, dov'è la parrucca? La parrucca di qua, vedi, di qua. E le tettine, le tettine. Mettiti queste tettine, te le tocco dal vivo, Senti, se incominciano a ridere, se incominciano a ridere, io che faccio? No, no, no, Winston, devi stare tranquillo perché è sicuro che rideranno all'inizio. È sicuro, però. Ho capito, tu, lasciali ridere. Stai dicendo da sempre, però se ridono io posso rispondergli come. No, no. No, non devi rispondere, tu lasciali ridere, all'inizio okay, rideranno. Dai, sono tutti vai pronti, tranquillo. Dai. Ah, avanti, avanti. Vai. In Milan. Capitano Prislo, Hodosh, guardiani, signori. Due fratelli della casa di Labatel si trovano a combattere in opposte fazioni. L'uno a difesa dello Stato, l'altro attaccandolo. Entrambi muoiono sul campo di battaglia. Allora il re Creonte, capo dello Stato, decide che colui che ha servito la patria venga sepolto con tutti i riti adeguati ad una nobile morte. Ma che l'altro, il traditore Polinice, tornato dall'esilio per mettere a ferro a fuoco la sua città e bere il sangue dei suoi anziani, non abbia né tomba né cordoglio, ma che venga se buttato nei campi all'aperto o che al massimo sia cibo per sciacalli. E la legge? Ma la loro sorella Antigone infrange la legge e seppellisce il corpo del traditore Polinice. Viene catturata ed arrestata. Ed è così che questa sera l'Odosh Fans Club Cella 42 è lieto di presentare per il vostro divertimento processo e condanna ad Antigone. Bravo, bravo, bravo. Entra. entra il re Creonte. Mio buon popolo, ma no, Creonte qui davanti al suo palazzo e vi saluta. Ma no, vi prego, basta, non esagerate con queste acclamazioni, con queste ovazioni. Tu, buon uomo, tu, ho forse udito viva il re? Ma no, mio buon popolo, quante volte devo chiedervi, supplicarvi di vedere in questi emblemi del potere niente di più e niente di meno di quello che vedreste nell'uniforme della più umile delle vostre sguattere. La corona di Creonte è semplice e io spero pulita come il grembiule della vostra balia, e come la vostra balia sorride ed è felice perché si occupa della sua missione, ovvero i vostri bambini, morbide membra lasciata di ingrassare in una piccola culla. E così fa Creonte, sta qui e sorride. E di che cosa si preoccupa? Di che cosa si preoccupa? Ma di mantenervi grassi e felici. Perché da cos'altro si misura la grandezza di uno Stato, Dalla sontuosità dei palazzi costruiti per i suoi re e per i suoi principi? Dalla magnificenza dei templi eretti per le sue divinità? Oppure dalla sapienza dei suoi studiosi, che adesso non possono perfino mandare dei razzi sulla Luna? No, mio buon popolo, no, tutte queste cose non hanno alcun valore di fronte a un popolo grasso e felice. Ma vi siete mai chiesti di chi è la responsabilità di mantenervi grassi e felici? La risposta è semplice, vero? Ma del vostro servitore, il re. E vi siete poi chiesti di che cosa ha bisogno un re per mantenere questo felice stato di cose? Quali, oltre la sua sciocca corona, sono gli strumenti con i quali opera un re per mantenervi grassi e felici? La risposta è altrettanto semplice, vero? Ma della legge, La legge, questa parola di 5 lettere, chissà quante volte voi l'avrete adoperata senza prendervi la pena di chiedervi ma che cosa è poi la legge, o se avrete fatto senza cadere nel cliché: la legge stabilisce questo, la legge stabilisce quello. No, mio buon popolo, no, la legge non stabilisce né conserva niente, la legge difende, è come uno scudo nella mano del vostro fedele servitore per proteggere voi. Ma come perfino uno scudo sarebbe inutile in una mano senza una spada nell'altra per colpire, così anche la legge ha la sua lama, ovvero la condanna. Abbiamo attraversato tempi difficili. Sì, avete ragione voi. E non sarò certo qui a ricordarvi i problemi avuti con i nostri confinanti, questi topi spregevoli che hanno rosicchiato la nostra pace, la nostra libertà e la nostra felicità. Ma li abbiamo sistemati a dovere, è vero. Ma sfortunatamente per noi ci sono ancora dei topi che non hanno imparato la lezione. E allora sono costretto a mostrare questo mio volto di Creonte, così diverso da quello che il mio popolo poc'anzi acclamava. Ed è per questo, signori, che siamo qui, perché ne abbiamo catturato un altro. Sì, e che sia un monito vivente per chi è ancora così incauto da nutrire simpatia per i topi. Lo scudo ha difeso. Bene, ora la spada deve colpire. Sia condotta l'imputata. Presente. Il tuo nome? Antigone, figlia di Edipo, sorella di Eteocle e Polinice. Antigone, sei stata accusata di aver sepolto in spregio alle leggi il corpo del traditore Polinice. Ho sepolto il corpo di mio fratello Polinice. E tu sapevi che c'era una legge che lo proibiva? Sì. E ciò nonostante l'hai sfidata? Sì. Conosci le conseguenze di questa sfida? Sì. E come ti dichiari di fronte alle accuse rivolte contro di te, colpevole o non colpevole? Colpevole. infatti, Antigone, bene, tu ti sei dichiarata colpevole, ma c'è qualcosa che desideri ancora dire in tua difesa, Questa è la tua ultima possibilità, parla. Sì, chi ha creato la legge che vieta la sepoltura di mio fratello? E lo Stato. E chi è lo Stato? In quanto re io ne sono il simbolo manifesto. Quindi tu hai creato la legge? Sì, ma per lo Stato. Sei forse Dio? Bada alle tue parole, ragazzina, Ma tu stesso avevi detto che io potevo parlare. Ma non di mettermi in ridicolo. Non ho tempo da perdere per questo. La tua sentenza sulla mia vita è appesa al filo delle tue labbra. E allora parla. Quando mio fratello Polinice morì in battaglia, tutto quello che rimase di lui fu il vuoto involucro del suo corpo. Non poteva nuocere né venire in aiuto ad altro uomo. Ciò che giaceva in battaglia, aspettando Odosh per imputridirsi, apparteneva a Dio, Creonte. Tu sei solo un uomo. E come ci sono delle leggi che vengono fatte dall'uomo, così ce ne sono delle altre che vengono fatte da Dio. Egli scruta la mia anima in cerca di colpe, proprio come fanno le tue spie di notte nascosti nelle campagne. Cercano chi trasgredisce le tue leggi. Mai, mai sarò colpevole davanti a Dio per nessun uomo su questa terra, anche senza la tua legge, Creontino, anche senza la minaccia di morte per chiunque la sfidi. Io lo so di dover morire. Le tue minacce non sono niente per me, Creontino mio, ma se io avessi abbandonato lì un figlio di mia madre, un figlio della mia terra in pasto a Odosh, mosca da carogne, la mia anima non avrebbe avuto più pace. Capisci qualcosa di quello che ti sto dicendo, Creontino? Sì, Antigono, le tue parole rivelano un'ostinazione dello spirito che ha portato soltanto tragedie al tuo popolo. Prima infrangi la legge e poi insulti lo Stato. Soltanto perché provo a ricordarti che sei solo un uomo. Lo senti, adesso aggiungi al danno la beffa e te vanti dei tuoi misfatti. No, Antigone, no, fossi anche la mia progenie, non scamperesti la più crudele delle condanne. La più crudele delle condanne? Ho proprio detto così, la più crudele delle condanne. Ho capito, la più crudele delle condanne. Ho forse detto la più crudele delle condanne? No, hai detto la più crudele delle condanne. E allora voglio la più crudele delle condanne. E allora che cosa puoi fare di più che uccidere? Infatti non desidero nient'altro. E allora non perdiamo altro tempo, smettiamola di parlare. Ho sepolto il corpo di mio fratello Polinice e questo è degno di onore, Creonte. E tutto il tuo popolo direbbe lo stesso se la paura di te e un'altra legge non li costringesse al silenzio. Ti sbagli, qui nessuno la pensa come te. Sì, lo pensano. Ma non osano dirtelo. Creontino, secondo me, tu non dormirai più in pace. Antigone, sei senza vergogna, questo si aggiunge alle tue colpe. Io non provo nessuna vergogna per aver onorato mio fratello. E l'altro che morì con lui, non era forse anche lui tuo fratello? Sì, lo era. E dunque tu onori uno e disonori l'altro. Ho condiviso il mio amore, non il mio odio. Allora va a condividere il tuo amore con i morti. La legge dei topi non prevarrà finché Creonte sarà vivo. E allora smettiamola di parlare, non perdiamo altro tempo. Le tue parole sconfiggono il tuo proposito e mi allungano la vita. Avete sentito tutti i fatti più importanti. Ne starò certo qui a chiamare i testimoni dello Stato, i quali attesterebbero senza ombra di dubbio che l'imputata è colpevole. Né mi sembra il caso di rivelare la loro identità. C'è una legge, ed è la legge che è stata infranta, ed è la legge che stabilisce la pena. Quindi le mie mani sono legate. Va bene. Per questa volta prendetela e portatela all'isola. Lì muratela viva, con cibo a sufficienza, che non si debba dire che ci siamo macchiati della colpa di aver versato il suo sangue. Fratelli e sorelle della mia terra, sto partendo per il mio ultimo viaggio. Devo lasciare la luce del giorno per sempre, per l'isola estranea e fredda, ed essere perduta tra la vita e la morte. Corriamo dunque alla mia prigione, alla mia eterna prigione, condannata viva ad una morte solitaria. Dei dei nostri padri, mia terra, mia casa, il tempo non aspetta più. Ora vado incontro alla mia viva morte, perché ho reso onore a quelle cose alle quali l'onore appartiene. Lo spettacolo L'Isola di Ethel Fugard, John Cani e Winston Shona, traduzione e regia Marta Gilmore, con Oscar De Summa e Armando Iovino. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Giorgio Andriani, co-direttore artistico della terza edizione del festival Sempre Più Fuori, a Roma, Villa Massimo e Goethe Institute, dal 14 al 25 luglio 2023, ben trovato. Ben trovato a tutti voi, ciao. Che cos'è questo festival? È un festival multidisciplinare giunto alla sua terza edizione, con me era co-direzione Antonino Pirillo. È appunto un festival multidisciplinare di teatro, musica, danza, letteratura, arte, grafica e fotografia. È una proposta per l'estate romana, per la cittadinanza romana, in cui vogliamo mettere un po' così a confronto i classici del contemporaneo con artisti e opere emergenti. Come era nato tutto? subito dopo il primo lockdown, e il titolo è un po' emblematico della volontà che avevamo a giugno-luglio, appunto di 3 anni fa, di andare un po' fuori all'aperto, appunto perché eravamo stati tanto tempo al chiuso, fuori anche dai dispositivi tecnologici. Volevamo riappropriarci sia dell'aria aperta dei bellissimi luoghi di Roma, che stare insieme anche attraverso l'arte e lo spettacolo. Fin da subito, sempre più fuori, si è proposto come festival in luoghi all'aperto, prima i giardini e i parchi del Municipio Quinto, quest'anno due importantissimi e molto affascinanti luoghi del Municipio 2, il Goethe Institute e Villa Massimo, l'Accademia Tedesca a Roma. Com'è stata questa scelta dei luoghi? Per due motivi. Il primo motivo è una volontà da parte di questa istituzione di collaborare con me e con Antonino, dall'altra parte anche una nuova sfida per me ed Antonino e per sempre più fuori, di andare a intercettare nuovi luoghi, nuovi spazi e anche nuovi pubblici, anche se poi siamo sicuri che gli spettatori, il pubblico che ci ha seguito nella prima e nella seconda edizione ci seguirà anche nella terza, perché si pensa sempre che le periferie siano dei luoghi marginali, no? Appunto periferici transformati, ma esistono dei luoghi, degli spazi anche più centrali rispetto alla periferia, centrali nella città di Roma, che al loro interno hanno comunque delle possibilità di indagine e di sperimentazione e anche di integrazione, perché questi due luoghi sono dei luoghi che sono appunto al centro della città di Roma, ma sono un po' delle roccaforti, e da parte delle direzioni di entrambi gli spazi c'era la volontà di aprirsi a loro volta alla cittadinanza, e una buona occasione è stata un po' la collaborazione per sempre più fuori. La scelta artistica? Nasce un po' dall'indagine che io e Antonino stiamo facendo da ormai 15 anni sul contemporaneo, sia dal punto di vista delle arti performative ma anche delle arti più vive, visuali e appunto la letteratura. Abbiamo voluto intrecciare quest'anno i classici del contemporaneo, come possono essere appunto i Motus o il Teatro delle Ariete, con nuovi artisti emergenti e non emergenti, ma magari all'inizio della loro carriera, come Diana Anselmo, Irene Tomio, Riff. Quindi è un po' riproporre dei classici che sono ormai diventati dei cult, come Mikkel, Sex e Motus, insieme a nuovi artisti come Diana Anselmo, che proporrà il suo autoritratto in tre atti. Importante la collaborazione quest'anno con il collettivo di Aliqua Artist, che è un collettivo di artisti disabili che hanno scelto di autorappresentarsi. Infatti all'interno di questa edizione, sempre più fuori, saranno diverse le collaborazioni sia con Aliqua Artist che con altre istituzioni come la Scuola Nazionale di Sordi di Roma, proprio perché vogliamo che sempre più fuori abbatta il più possibile nel tempo tutti i limiti sia geografici che culturali che fisici che mentali. Nel complesso quanti appuntamenti e come saranno articolati? Sono 12 giorni, gli appuntamenti più o meno sono uno al giorno, ma con un calendario anche abbastanza fisso in alcuni giorni. Vi consiglio di consultare il nostro sito www.sempreciufuori.it e le nostre pagine Instagram e Facebook per avere una panoramica un po' più precisa e puntuale degli appuntamenti. Iniziamo il 14 luglio al Goethe Institute in una sorta di staffetta con il Festival Letteratura, l'importante Festival Internazionale di Letteratura che è organizzato dal Comune di Roma, perché ospiteremo il grande autore Nicola Lagioia, che è proprio l'ultimo ospite del Festival Letteratura del 13 luglio, sarà il primo ospite del Festival Sempre Più Fuori il 14 luglio. Verrà introdotto da Simona Cives, che è la curatrice e direttrice artistica del Festival Letteratura. A seguire avremo gli altri appuntamenti fino al 25, e dal 19 ci sposteremo a Villa Massimo con gli appuntamenti di teatro e danza. Avremo Alessandro Sciarroni con Save the Last Dance il 23, Giuliana Mussi il 25. Adesso non vorrei citarli tutti, ma non vorrei saltarne qualcuno, però insomma cartellone è anche variegato, quindi la letteratura, il cinema, proporremo un classico del cinema italiano, Le vacanze intelligenti, che è uno degli episodi di Dove vai in vacanza, con la regia e l'interpretazione straordinaria di Alberto Sordi, che è un po' una volontà anche di prendersi in giro noi stessi, no? Cioè proponiamo delle opere di arte contemporanea al Goethe Institute e poi proponiamo questo film classico a cui abbineremo una cena tipica romana. Importante sarà comunque il connubio con il cibo e l'arte, perché per tutto il periodo saremo affiancati da un'osteria storica di Centocelle, l'osteria da Dante, che reinterpreterà i classici della cucina romana con un tocco appunto di contemporaneità anche nel cibo. Terza edizione del festival Sempre Più Fuori a Roma, Villa Massimo e Goethe Institute, dal 14 al 25 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Giorgio Andriani. A presto! Grazie e a presto, buon lavoro, salve! Con Alessandro Di Somma, co-direttore artistico della settima edizione di Pillole, tutto in 12 minuti, a Roma, Fortezza Est, dal 17 al 23 luglio 2023, ben trovato. Grazie, grazie a tutti, ciao Federico. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse. La Pillole è il modo di Fortezza Est, di me e di Eleonora Turco, l'altra direttrice artistica del teatro Fortezza Est, di trovare spettacoli della stagione 2023-2024. Vedremo 30 progetti di spettacolo e di questi 30-35 progetti ne selezioneremo alcuni che faranno parte della stagione del prossimo anno, tra residenze artistiche, produzioni e ospitalità. Questo è un modo per vedere i progetti e selezionarli non tramite mail, tramite curriculum, ma dal vivo. Naturalmente prima è stata fatta una selezione, sono arrivate quasi 200 proposte, ne abbiamo selezionate una trentina, 35 da vedere in questa settimana molto intensa. Ci saranno dalle 4 alle 5 pillole di massimo 12 minuti e un gruppo di spettatori, addetti lavori e amici ci aiuteranno a selezionare alcuni per vederli poi in forma completa l'anno prossimo in stagione. È un modo anche per conoscere le compagnie, per vedere che abbiamo davanti. Non ci basta più un progetto su carta o via mail, ma ci serviva un po' di conoscere le persone dal vivo, e questi affiancheranno poi i progetti già presenti in stagione, che saranno alcune compagnie ormai un po' storiche del nostro panorama teatrale. Come venne l'idea all'inizio? Non ci siamo inventati niente, naturalmente. Insomma, tra segni e festival di corti ce ne sono tanti. Noi ci chiedevamo, ma siamo sicuri di quello che selezioniamo tramite progetto? Perché non facciamo un passo in più? Perché non conosciamo le compagnie? Così, anche perché noi, c'è qualcuno che non è bravissimo a scrivere un progetto, oppure il video viene male. Sarebbe bellissimo rivederli tutti i progetti che ci sono arrivati. Purtroppo anche in questa selezione facciamo degli errori, perché anche quelli che vediamo dal vivo non sono la totalità, ma rappresentano un 15%, un 20% delle proposte arrivate. La nostra idea è quella in futuro di riuscire a avere per una selezione sempre più accurata, ma non tanto sulla qualità, che è uno dei paradigmi, ma anche quello su che stagione teatrale vogliamo, qual è la direzione artistica ogni anno diversa che vogliamo portare nel nostro teatro. Poi quest'anno abbiamo fatto una cosa in più, abbiamo messo un premio di drammaturgia, 100 euro per l'asso teatrale che più ci interessava, e poi oltre al premio in denaro lo metteremo in scena e lo produrremo, e questo sarà un appendice di pillole che vedremo poi magari a fine luglio. Selezioneremo naturalmente non dal vivo, ma quello proprio leggendo. Abbiamo fatto leggere anche i testi a diversi nostri amici drammaturghi e direttori artistici di altri spazi per darci una panoramica sui testi che ci sono arrivati. Le proposte un po' da tutta Italia? Da tutta Italia, anche alcuni dall'Europa, ospiteremo una compagnia che viene dal Belgio e alcuni altri artisti che girano un po' tutta Europa. Abbiamo insomma l'accortezza di selezionare vari progetti non troppo economicamente dispendiosi anche per le compagnie che arrivano. Il nostro spazio piccolo, quindi noi pensiamo sempre alla fattibilità non solo della resa scenica, ma anche poi dell'economia e delle compagnie che ospitiamo. La nostra idea è quella che i progetti siano sostenibili economicamente. Questo per me è fondamentale dopo tanti anni di direzione artistica, in cui le compagnie spesso ci rimettono a fare gli spettacoli, invece finalmente vorremmo che le compagnie ci guadagnassero, insomma. Da questa prima selezione che impressione ne hai tratto? Che ogni anno abbiamo dei temi preponderanti da parte delle compagnie, e questo perché l'attualità dà le linee guida anche delle drammaturgie, delle scelte degli spettacoli. Penso che da quello che abbiamo visto ci sia una gran voglia di avere degli spettacoli anche che possano essere venduti e distribuiti in maniera massiva, quindi abbiamo delle tematiche contemporanee: la guerra, il genere, le nuove generazioni, la ricerca della propria identità lavorativa e anche drammaturgica e anche artistica, visto che viviamo in un contesto in cui le nuove generazioni, ma anche le medie, no? I trentenni, sono nell'impasse di riuscire a fare questo lavoro, come farlo, e quindi le tematiche rispecchiano molto l'attualità. Abbiamo qualche rivisitazione di classici, ma soprattutto drammaturgia contemporanea e la ricerca di linguaggi anche per la distribuzione. Questo secondo me è anche importante, perché oltre a pensiero artistico, secondo me c'è anche di esserci una visione anche sul presente. Il mio spettacolo, a chi lo faccio vedere, chi lo vuole vedere, quindi abbiamo proprio tolto tutte le velleità, le masturbazioni mentali, chiamate così, si va molto sul concreto. Penso sia necessario perché è uno spettacolo teatrale, se è per il pubblico, se c'è qualcuno che vuole vederlo, questo per me è molto importante, al di là della qualità, della scelta, ma bisogna avere una visione anche del mercato, gli spettacoli non si regalano, gli spettacoli si vendono, quindi bisogna avere un'attenzione anche a quello. Tutti i riferimenti web per i dettagli? Trovate tutte le informazioni su www.fortezzaest.com, le pagine Facebook e Instagram. Il calendario è molto fitto, da lunedì a domenica tutti i giorni dalle ore 20. Il costo è di 5 euro, quindi vedrete 4-5 pillole a 12 minuti e ci aiuterete a scegliere gli spettacoli della prossima stagione, compilando una scheda tecnica di cose che avete visto, e poi speriamo di rivedere tanti progetti che vediamo in questi giorni, di rivederli poi da ottobre a maggio nella programmazione di Fortezza Est. Settima edizione di Pillole, tutto in 12 minuti a Roma, Fortezza Est, dal 17 al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Alessandro Di Somma. A presto! Grazie a te Federico, grazie a tutti. Con Orazio Schifone, uno degli organizzatori della 29esima edizione della rassegna I Solisti del Teatro a Roma, Giardini della Filarmonica Romana, dal 13 luglio al 4 settembre 2023, ben trovato. Grazie, buongiorno, buongiorno. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse. I Solisti del Teatro è una rassegna, un festival estivo che ha raggiunto la sua 29esima edizione, ideato e con la direzione artistica, ovviamente anche quest'anno, di Carmen Signorano. Presso i Giardini della Filarmonica Romana, che è un giardino immerso appunto nella città, ma è un piccolo paradiso di verde a due passi da Piazza del Popolo. E tutte le sere, a parte appunto le pause che ci prenderemo, avremo 40 spettacoli dal 13 luglio al 4 settembre. Com'è stata la scelta artistica? Molto varia. Carmen quest'anno si è superata perché innanzitutto ha dato molta importanza al teatro, e c'è anche la musica, c'è un po' di danza, ma ha dato molta più importanza al teatro, e c'è tutto. Ci sono grandi classici, ci sono drammaturgie contemporanee, artiste che sono già affermate e anche invece nuove leve, quindi abbastanza vario, ecco, il programma, accontenta un po' tutti. Come si sta trasformando nel corso del tempo, visto che siamo a 30 anni? Io credo che ci siano stati sempre dei punti fermi, cioè la qualità. Carmen ha sempre voluto offrire un servizio alla cittadinanza, in realtà, perché questo comunque è un posto che viene attraversato un po' da tutti. Abbiamo sia il pre-spettacolo che il post-spettacolo, con il bar e con la ristorazione. C'è anche una settimana Rainbow, da qualche anno appunto dedicata al teatro LGBT. C'è molta attenzione a tutto quello che è il vivere della città e la società che la circonda. E Carmen ha sempre puntato alla qualità e non ha modificato questo nel corso degli anni. È sempre rimasta un punto fermo, un punto saldo, e difatti lo si vede dal pubblico che ogni anno è sempre di più e apprezza tantissimo la rassegna. E ci sono anche artisti e artiste che nel corso degli anni tornano. Esatto, ci sono un sacco di artisti che ritornano e che cercano Carmen, che vogliono fare qualcosa di così, ed è sempre bello poi vedere ritorni magari dopo anni, no? Che magari uno c'è stato tanti anni fa, poi ritorna, ti porta qualcosa di nuovo, oppure qualcuno che porta sempre cose diverse. È sempre bello perché vedi anche l'evoluzione. Io quest'anno è il primo anno che sono dalla parte dell'organizzazione, perché di solito ero dall'altra, ho portato gli spettacoli da Carmen, organizzavo già la settimana Rainbow, ma non ero mai entrato nell'organizzazione. Quest'anno invece Carmen mi ha avuto, era un bel gruppo, anche un gruppo di lavoro ottimo, però è bello vedere appunto cosa c'è dietro, che comunque anche quest'anno il livello è molto alto. Per dire, apriamo con Massimo Monti adesso, poi c'è Donatella Pandiviglio, Lucilla Lupaioli per i tre giorni, poi avremo Rodolfo Laganà, Annalisa Glioti, Chiara Becchimanzi, e avremo invece delle nuove proposte appunto, che sono ragazze e ragazzi anche della Figlio d'Amico, di giovanissima, che è una regista argentina giovanissima, e quindi sono molto felice, ecco. Com'era nato tutto? Questa collaborazione nasce tanti anni fa. Tutti considerati, Carmen ha creato questo festival insieme anche a tante collaboratrici, anche lei è stata la collaboratrice di Pierelli Esposti, la sua manager, hanno ha fondato il Teatro della Maddalena, viene da quell'esperienza là, Carmen, ha veramente fatto di tutto, ha organizzato i Capodanni a Roma, quindi è sempre stata molto dentro la città e ha trovato questo spazio che è del Comune di Roma in realtà e in concessione all'Accademia Filarmonica Romana, e quindi hanno creato questa rassegna insieme e da allora non hanno smesso. È nata questa idea in questo meraviglioso posto verde, questo cuore pulsante all'interno della città, e appunto non si sono più fermati. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sì, assolutamente. Allora, su internet il sito dei solisti è www.isolistideltheatro.it e tutti gli spettacoli comunque sono anche prenotabili, perché dal sito potete trovare il numero di telefono che è 380-786-2654, altrimenti sia su Instagram che su Facebook I Solisti del Teatro, e trovate tutte le informazioni di tutto il programma che man mano si aggiorna. 29esima edizione della rassegna I Solisti del Teatro a Roma, Giardini della Filarmonica Romana, dal 13 luglio al 4 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Orazio Schifone, uno degli organizzatori. A presto! A presto, grazie mille! Con Maria Stella Margozzi, direttrice dei Musei Statali della Città di Roma, per presentare la terza edizione della rassegna Sotto l'Angelo di Castello a Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, dal 29 giugno al 21 settembre 2023. Ben trovata! Grazie, buonasera a tutti. Presentiamolo a chi non lo conoscesse, di cosa si tratta? È la terza edizione di una rassegna di spettacolo tra musica, danza e prosa che Castel Sant'Angelo ospita dal 2021 durante l'estate, proprio per rendere il luogo meno monumento e più luogo della cultura, dove appunto le culture si mescolano insieme alle opere d'arte, bellezza dell'architettura, le storie che si raccontano al castello. Si può godere anche di buonissima musica e di esperienze appunto di danza e di racconti in prosa. Com'era nato tutto? È nato tutto nel momento della pandemia, quando era difficile veramente incontrare il pubblico e soprattutto quello che poteva venire, cioè quello di prossimità, quello romano. All'inizio addirittura mandavano in streaming le presentazioni. E poi pian piano si è cominciato a chiamare in modo contingentato appunto il pubblico romano ad assistere a quello che era una plusvalenza di esperienze culturali e soprattutto appunto esperienze anche di gente che l'arte la vive, la fa manualmente, la fa con la parola, con i movimenti. Quindi era un po' questo, poi ha avuto successo. Ci è sembrato utile e anche nuovo di renderlo periodico, però costante, in modo da contribuire anche noi a un'estate romana, insomma, che ha tantissimi stimoli, e quindi anche da qui si può avere un piccolo saggio di quelle che sono le talenti, diciamo, umani. Com'è stata la scelta artistica? È sempre stata ad alto livello la scelta artistica. La fa Natelli, poi la condivide con me, e abbiamo avuto Ennio Greco e Peter Scholten come prima giornata, il 29 e poi anche il 30 giugno, il 1 luglio. Avremo altri artisti di grande levatura, ci sarà il David Trio Fanks, che è l'11 luglio prossimo, con Claudio Trovaglioli ed altri musicisti. Poi avremo una parte dedicata alla prosa, 19 luglio La delicatezza del povero del niente di Roberto Latini, quindi con voce, una recita di pezzi teatrali e letterari. Poi ci sarà il 26 luglio Post Piano Session con Davide Puzza di Leo, e via via il collettivo cinetico Alessandro Sciarroni il 2 agosto, la compagnia di Enzo Cosimi, che farà il 23-24 agosto una prima assoluta di un site specific sul proprio castello. È uno spettacolo itinerante, come è stato itinerante anche quello di Ennio Greco e Peter Scholten, perché abbiamo visto che la danza e le performance di danza che vengono realizzati in tutti del castello e che quindi trascinano il pubblico via via in location sempre diverse, hanno un grande successo perché il pubblico segue e quindi in qualche modo accompagna i movimenti dei danzatori e anche le musiche. Quindi ci è sembrata una buona soluzione, l'abbiamo praticata più spesso che gli altri anni e anche quest'anno. E poi alla fine, il 21 settembre, ci saranno i satiri della compagnia di Virgilio Sieni, anche questo è uno satiri di circa. Quasi tutte lo sono in realtà. Sì. Il settembre con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano fanno il sono in scena perché io e mio fratello Roberto, una pièce molto divertente. Diciamo che c'è anche una tipologia di opere dedicata a tutti i pubblici, anche ai ragazzi, anche ai bambini. Come è strutturato ogni singolo appuntamento? A volte abbiamo tre manifestazioni, tre rappresentazioni nel giro di qualche ora. Quindi so che inizia alle 18.30, poi alle 19.30, poi alle 20.30, quindi tre. A volte una sola, e avviene nell'ormai tipico teatro di Castello che è il cortile di Alessandro VI, dove è stato costruito appunto un palco. A volte appunto le performance di danza vengono realizzati più punti del castello, quindi portano anche ad una visita diversa, completamente suggestiva anche come proprio luogo di appartenenza appunto del castello stesso. Sono i bastioni, che è la rampa elicoidale della parte romana, che sono appunto i cortili. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sono sia sul sito museparts.it, musei, Lazio, Museo Nazionale Castel Sant'Angelo, sia sul sito della direzione Musei Statali di Roma, sono tutti i riferimenti anche per le prevendite. Il biglietto associato ovviamente alla manifestazione, il biglietto è sempre quello di Castello, l'entrata a Castello, quei giorni, quelle sere, gli spettacoli appunto al massimo diciamo possono essere anche pomeridiani, ma in genere insomma sono tutti dopo le 19, quindi ci consentono un'apertura straordinaria serale fino a circa le 10 della struttura. E quindi dicevo, l'ingresso è comunque con il solo biglietto del monumento, non ci sono costi aggiuntivi, solo bisogna prenotarsi per poter aver riservato un posto appunto nelle manifestazioni. Terza edizione della rassegna Sotto l'angelo di Castello a Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, dal 29 giugno al 21 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Maria Stella Margozzi, direttrice dei Musei Statali della città di Roma. A presto! Grazie, a presto. Ciao, arrivederci. Con Fabio Galadini, direttore artistico dell'undicesima edizione del Roma Fringe Festival, nei teatri Vascello, Parioli e Sala Umberto dall'11 al 26 luglio 2023. Ben trovato! Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Raccontiamo quali sono le caratteristiche del Fringe. Il Fringe, come da tradizione scozzese, è una grande vetrina di per le compagnie, per il lavoro che viene spesso marginalizzato dal grande sistema di produzione teatrale. Quindi questo è sostanzialmente la nostra mission, cercare di predisporre una macchina il più autorevole possibile con le condizioni economiche che abbiamo a disposizione, una macchina di visibilità e di proposta del lavoro che spesso rimane sommerso. Questo meccanismo che esiste a Roma dal 2012, questa è l'11ª edizione, e che è stato introdotto per la prima volta in Italia da David D'Ambrogi e Marta Volterra, e io ho assunto la direzione nel 2019, sembra che appunto stia avendo ottimi risultati di credibilità e di attenzione anche da quelle compagnie che non sono così marginali, e questo ci fa molto onore perché significa che siamo attenzionati. Quindi rimane sempre per il 90% della nostra proposta sempre dedicato a compagnie emergenti o nuove drammaturgie, ma sembra far capolino anche produzioni. Questo appunto significa che siamo insomma attenzionati, e quest'anno infatti ci saranno un paio di produzioni, come è accaduto già lo scorso anno, che si metteranno in discussione, perché il Fringe è un concorso in cui le compagnie che viene selezionato entra in una specie di gara, di un agone, perché questo è il Fringe, mettendo a disposizione se stesso e mettendo a disposizione il proprio potenziale di autopromozione. Questa è l'idea generale del Fringe. Poi ogni Fringe, ne esistono 250 nel mondo, ogni Fringe assume le caratteristiche della città o del paese che viene ospitato, e quindi queste sono le linee generali del Fringe di Roma. L'edizione di quest'anno quanti eventi propone? Sono 3 spettacoli al giorno che vanno in replica il giorno successivo per un totale di 2 settimane, quindi sono 21 spettacoli, 21 produzioni, 21 compagnie che sono state selezionate e che si alterneranno su 3 palcoscenici, e questa è una delle novità importanti di quest'anno, cioè che dal nostro teatro di riferimento, la nostra casa naturale, cioè il Teatro Mascello, poi questa kermesse, questa gara, questa possibilità di vetrina viene declinata in altri 2 teatri molto importanti nella capitale, che sono appunto il Teatro Parioli e la Sala Umberto, e quindi si alterneranno su questi 3 palcoscenici. Questa è una grande possibilità di aumentare il sistema di visione, di visibilità e di promozione del lavoro di queste compagnie. E c'è un'altra ulteriore novità, che c'è un 4° teatro, cioè il Teatro Trastevere, nel quale però facciamo una cosa diversa: non andiamo in scena, ma abbiamo chiesto alle compagnie, proprio per aumentare la conoscenza del loro lavoro, di poterlo proporre, di dialogare con altri, di fare dei laboratori del loro lavoro, in modo tale che appunto la proposta artistica venga di più sedimentata, capita, compresa, dialogata con gli altri. E quindi ci saranno dei laboratori proprio curati da queste compagnie che partecipano a questa gara. Com'è stata la scelta artistica? L'accesso al Fringe è libero, tutti possono accedere, no? Arrivano decine di proposte da tutta Italia, e poi noi facciamo una selezione, perché il numero che ci è possibile dal punto di vista della struttura organizzativa, insomma, della proposta, sono 21 compagnie. Ne abbiamo selezionato 21 innanzitutto dalla proposta, che tipo di proposta fanno, se è adeguata alla possibilità di individuare nuove drammaturgie, una nuova possibilità di espressione, insomma di ricerca, ma anche di abilità attoriale. E quindi questi sono i parametri che noi adottiamo quando facciamo la selezione. Progetti anche sconosciuti, progetti presentati da ragazzi, e questo è molto importante, perché non c'è una scelta in base alle categorie tradizionali, mettiamola così, ma proprio andiamo nel dettaglio e verificare quali secondo noi possono ottenere dei risultati. I riferimenti web per saperne di più sul programma? Il nostro sito, c'è tutto il calendario, e poi ogni teatro, Mascello, Parioli, la Sala Umberto, e quindi romafringefestival.it, teatrovascello.it, salaumberto.it e il Parioli.it. 11ª edizione del Roma Fringe Festival nei teatri Vascello, Parioli e Sala Umberto dall'11 al 26 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabio Galadini. A presto! Sì, grazie. Volevo solo aggiungere una cosa, se è possibile, che il 26 c'è la finale alla Sala Umberto, quindi 21 compagnie arriveranno al 24, poi c'è un momento di pausa perché dobbiamo fare i conti del punteggio che hanno tenuto, e il 26 ci sono 3 finalisti che stanno alla Sala Umberto. Con Rita Azzeri, co-direttrice artistica della 15ª edizione di Nurarcheo Festival in Sardegna dal 17 al 31 luglio 2023, ben trovata. Ben trovati a voi e grazie per averci chiamato. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è? Il Nurarcheo Festival è un festival teatrale che si svolge nelle aree archeologiche più belle e suggestive della Sardegna. Ogni anno scegliamo una zona diversa, perché l'obiettivo è proprio quello di promuoverle, queste aree archeologiche, e lanciare a noi teatranti delle sfide diverse, perché ogni territorio poi presenta le sue particolarità e difficoltà d'allestimento. Stiamo parlando di siti unici con le loro caratteristiche, nuraghi, tombe dei giganti, Domus de Jana, Tempia Meganon, Menhir. La caratteristica del festival è quella di limitare gli allestimenti e le imbarcature, in un certo qual modo, che impedirebbero un dialogo tra artisti e siti, e quindi i siti vengono interpretati dagli spettacoli che gioco porta, sono costretti a confrontarsi con una amenità e con una dimensione archetipica ed ancestrale che è propria di questi luoghi. Gli spettacoli si svolgono al tramonto col cambio di luce, quindi c'è anche una suggestione particolare. Amiamo definire il nostro festival un festival dal tempo lungo perché saboriamo proprio la presenza degli spettatori all'interno dell'area archeologica, anche facendo sì che delle guide specializzate facciano proprio una guida lunga di un'ora e mezza all'area archeologica, e poi insomma, si assiste allo spettacolo, e dopo lo spettacolo si sta piacevolmente insieme un po' a conversare e a confrontarsi appunto su quello che si è visto. Quanti sono i siti e che area interessano? Quest'anno ci siamo concentrati nella zona dell'Ogliastra, della Grande Stresai. Qui abbiamo una tomba dei giganti nell'area archeologica denominata Sacra Terenza e un tempio nella zona archeologica denominata Sacro Sforro. Questa era anche una fornace dove anticamente, poiché è una leggenda che in realtà gli antichi sarti non viaggiassero per mare, si faceva proprio commercio di metalli. E l'altra zona interessata è quella di Tortolì, dove è presente sia il nuraghe che una tomba dei giganti, e l'area archeologica si chiama Sortalie su Monti. Quanti sono gli spettacoli e com'è stata la scelta artistica? La scelta artistica è stata guidata in un certo qual modo anche dal tema generale che il festival ha, che è quello proprio di indagare le possibilità dell'essere umano in confronto alla natura, allo spazio e al tempo. Quindi è un tema molto generico, in verità, che consente poi volta per volta di dare voce a quelle che sono anche le novità sul piano artistico. Infatti apriamo questa edizione con lo spettacolo Sogno Creatore di Giorgina P, che è un artista che merita e ha notevole attenzione in questo momento sul piano teatrale nazionale. Gli altri nomi che abbiamo intercettato sono in alcuni casi delle presenze costanti nel festival, ovviamente Iaia Forte e Tommaso Ragno. Iaia Forte mi affianca proprio nella direzione artistica del festival. Abbiamo per la prima volta il piacere di ospitare Anna Bonaiuto ed Enrico Bonavera, e poi ci sono dei ritorni graditi come appunto quello di Mario Perrotta, quello dei Motus, di Maria Pagliato, insomma, presenze che nel corso degli anni sono state invitate in più occasioni. Gli spettacoli sono tantissimi, il festival ha una programmazione ricchissima tra queste aree archeologiche che sono state nominate, quindi abbiamo 2-3 iniziative al giorno, e abbiamo aggiunto quest'anno anche una sezione che è dedicata un po' agli incontri, agli approfondimenti, che è curata da Mario Serenellini. Tutti i riferimenti web per saperne di più sul programma? Sul nostro sito www.ilcrogiuolo.eu e sulla pagina festival dedicata appunto al Nurarchio Festival. Quindi basta digitare la parola Nurarchio Festival e compare anche la pagina. 15ª edizione di Nurarchio Festival in Sardegna dal 17 al 31 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Rita Azzeri. A presto! Grazie, a presto, grazie a voi. Con Marco Pasquinucci di Officine Papage per presentare l'11ª edizione di Festival Nuove Terre. In 10 comuni tra La Spezia e Genova dal 15 luglio al 24 agosto 2023. Ben trovato! Grazie mille dell'invito, ormai sta diventando un appuntamento annuale, grazie mille davvero per l'attenzione. Spieghiamolo a chi non lo conoscesse. È un festival multidisciplinare diffuso che negli anni ha imparato, come i virus, quelli buoni, a contagiare i territori, e quindi si è sviluppato in questi anni, a partire da un comune, il comune di Monterosso, e è finito appunto in 10 comuni. non è più a Monterosso, ma sono più solo 10 comuni appunto che stanno a cavallo tra la provincia di La Spezia e la provincia di Genova. Sono piccoli borghi sul mare, ma dall'anno scorso anche dei borghi che sono sull'entroterra, in questo legame che appunto rappresenta la Liguria, no? Con la costa, con tantissime presenze, con un mare bellissimo e appunto invece appunto una costa che ha meno presenze, però è altrettanto bella. Quindi il festival lavora, un festival teatrale multidisciplinare su con i maggiori nomi appunto della drammaturgia contemporanea, del circo contemporaneo e appunto della musica e della danza, lavora appunto anche sullo spostamento delle persone, proprio creando appunto delle serate in cui il pubblico scopre anche nuovi territori e proprio appunto l'interpretazione dei luoghi, delle piazze, dei borghi storici è anche appunto un elemento caratteristico appunto della nostra programmazione, che vede proprio il luogo non come semplice contenitore di spettacolo, ma come appunto una parte della drammaturgia. Infatti degli spettacoli insieme agli artisti sono proprio scelti in modo appunto da valorizzare lo spettacolo che viene fatto proprio appunto in quella location. Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione? Sono 18 appuntamenti, inizieremo appunto il 15 di luglio con diciamo la novità più grossa appunto di questo festival, che è un'apertura internazionale. Il festival appunto si apre all'Europa e appunto si è creato questo rapporto, questa serie di residenze di Civellaggio, chiamiamolo così, con il Portogallo, con una delle più importanti compagnie di Lisbona, che sono il Teatro da Garagem, che debutterà all'interno del festival il 15 con l'ultimo lavoro che si intitola Secondo Atto, uno spettacolo in portoghese con sottotitoli in italiano. Quindi diciamo che appunto in questi anni si è aperta appunto questa finestra verso l'Europa, appunto per dare un più ampio respiro alla programmazione. E poi appunto ci sposteremo, soprattutto il cuore del festival sarà ad agosto, un giorno dietro l'altro, spostandosi appunto da un borgo all'altro. Com'è stata la scelta artistica? È sempre legata appunto a questo progetto triennale che abbiamo fatto sui temi della poesia, con la sua capacità sintetica di rappresentare il reale e non semplificarlo, e il rapporto con il presente, con il coraggio, l'ironia di guardare il mondo che è cambiato, no? Attraverso lo sguardo degli artisti che sono stati coinvolti, tra Giuliana Musso che porta in scena appunto la sua Sex Machine, al Teatrino Giullare, con la poesia di Stabia, ai giovani irriverenti Fetta Rapper Maragoni con la nuova ultima produzione che appunto parla del lavoro e della sua invadenza all'interno della nostra vita, della coincidenza fra vita e lavoro. E poi abbiamo appunto il circo contemporaneo, abbiamo appunto spettacoli legati soprattutto appunto al pubblico straniero, appunto, hanno parole, insomma una programmazione molto intensa e anche multiproposta, insomma, che vuole accontentare e incuriosire soprattutto tutte le numerose fasce di pubblico che popolano appunto la costa e l'entroterra di cura in quel periodo. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Siamo molto social anche noi, per cui in primis il sito officinepapage.it, dove trovate la sezione legata appunto al Festival Nuove Terre, e poi appunto c'è una pagina Facebook, un canale Instagram e un canale Telegram dedicato proprio a Festival Nuove Terre. Poi c'è appunto la pagina Instagram e Facebook di riferimento appunto di Officine Papage, dove c'è appunto un po' tutte le nostre attività. Ci sono tutti i numeri di riferimento per le prenotazioni e insomma il coinvolgimento appunto di tutto il territorio. Undicesima edizione del Festival Nuove Terre in 10 comuni tra La Spezia e Genova dal 15 luglio al 24 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento a Marco Pasquinucci di Officine Papage. A presto! Grazie a voi, davvero buon lavoro e speriamo di vederci, ce lo diciamo. Se giri da queste parti a noi fa molto piacere averti con noi, faccelo solo sapere. Con Roberto Castello, ideatore della rassegna Tempi Moderni, quarta edizione a Capannori dal 19 al 28 luglio 2023, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Descriviamolo per chi non lo conoscesse, cos'è? Tempi Moderni è una rassegna che è nata nel 2020, in pieno Covid, per rispondere a tutta una serie di esigenze. Fondamentalmente ha finito per essere un progetto che prevede ogni anno la produzione, quest'anno sono 3 spettacoli ad hoc, che girano per le corti e le aie del comune di Capannori, 50.000 abitanti, qualcosa meno, sparpagliati su 40 frazioni, senza avere un borgo di riferimento. Quindi, in definitiva, questa iniziativa ruota per il territorio, andando in zone private, spesso condivise tra più famiglie, e diventa un pretesto per riattivare una socialità che è quella di corte, che appartiene profondamente alla tradizione locale, ma che col tempo, con la modernità, si è andata un po' perdendo. quindi abbiamo casualmente, anche un poco per rispondere al momento difficile del Covid, trovato una misura che ha finito per avere veramente la forma del territorio in cui si è inserita. Com'è caratterizzata questa edizione? In questa edizione ci sono tre lavori molto diversi. Quest'anno tocchiamo sei corpi, da nord a sud del comune, da est a ovest. Lo dico per chi non conosce il territorio, ci vuole anche un'ora per andare da una parte all'altra del comune, quindi i posti sono effettivamente abbastanza limitati e sono molto vari come conformazione, come anche tessuto urbanistico di fatto in cui si inseriscono, alcuni sono collinari, alcuni sono pianeggianti. Le produzioni quest'anno sono abbastanza diverse. Abbiamo una stand-up comedy di Fabio Saccomani, che si intitola Babele, in cui lui racconta di cose sue, fa suoi viaggi e considerazioni sul mondo e sulla vita. In realtà è una stand-up comedy piuttosto riflessiva, però abbastanza assurdamente divertente. Poi abbiamo La cantautrice fantasma di Ivan Talarico, che è un poeta e cantautore, nonché conduttore radiofonico romano, che ha una cifra molto divertentemente surreale. E il terzo lavoro invece è un lavoro che sto finendo di mettere a punto io, che si chiama Atlante delle danze immaginarie, ed è un contesto narrativo dove ci siamo immaginati un personaggio storico mai esistito, che intorno al 1200, insomma nel XIII secolo, ha viaggiato il mondo a destra e a sinistra trovando delle danze assolutamente ignote, popoli sconosciuti che facevano cose inusitate. Queste sono le cose, tutti i lavori che fondamentalmente hanno come caratteristica quella di rivolgersi a un pubblico che va dai 2 ai 102 anni e con qualsiasi livello di istruzione, quindi lavori che non sono prettamente teatrali. Quando si fanno i lavori a teatro si sa che c'è qualcuno che è uscito da casa apposta per venire a teatro. Qui siamo noi che andiamo a incontrare le persone, quindi cerchiamo di fare delle cose che, pur mantenendo un alto livello di qualità delle nostre possibilità, cerchino di non lasciare indietro nessuno, che possano essere una serata di piacevole socialità che coinvolga appunto bambini, famiglie, gente che va abitualmente a teatro, gente che non c'è andata mai, gente che parla male italiano. Come si svolgono gli appuntamenti? Tutti gli appuntamenti sono alle 9. Tutti e tre gli spettacoli vengono rappresentati ogni sera, mercoledì, giovedì e venerdì di queste ultime due settimane di luglio. L'ingresso è gratuito, però fin dalla prima edizione abbiamo pensato che non fosse bene neanche fare una cosa totalmente gratuita. Quindi abbiamo detto, invitiamo tutti quanti a contraccambiare lo sforzo organizzativo e artistico portando beni di prima necessità che sul luogo i volontari della Caritas raccolgono e poi mettono immediatamente nel circuito della solidarietà sociale. Gli spettacoli durano una cinquantina di minuti, i due venerdì sera, quindi il 21 e il 28, gli spettacoli sono seguiti anche da piccoli concerti e avremo ad eseguire due di questi concerti, quindi uno venerdì, uno l'altro, Slam Mustafa Dembélé, un griot maliano, un carissimo amico, grande intrattenitore di grandi e di bambini. Poi abbiamo Vangelis Mercouris, che è un suonatore di oud greco, un grande divulgatore della cultura greco-ottomana, soprattutto è molto bravo nell'inquadrare il senso e la storia da cui derivano le cose che lui esegue. E poi abbiamo Luca Giovacchini e Diego Sapignoli, che invece fanno concerto il 21. Luca Giovacchini, che è uno splendido chitarrista che vive in Garfagnana, Diego Sapignoli, un batterista che viene da Cesena, che in duo faranno una serata semi-improvvisativa in una delle corti, mentre il 28 ci aggiungerà a questa cosa Esteban Pavez, un ragazzo cileno che fa una serata un po' simile a quella di Vangelis, ma riferita alle tradizioni del popolo Mapuche. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? www.aldesweb.org/progetti-locali, oppure Facebook e Instagram sono Spam Rete per le Arti Contemporanee, c'è anche un numero di telefono per chi vuole informazioni o contattarci WhatsApp, che è 348-3213-503. Quarta edizione della rassegna Tempi Moderni a Capannori dal 19 al 28 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Roberto Castello. A presto! Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Spero davvero molto presto. Un abbraccio. con Eugenia Querci del Comitato di Quartiere Creazione per presentare l'evento artistico Open Villa Sciarra a Roma, Villa Sciarra, giovedì 20 luglio 2023. Ben trovata. Grazie, grazie, l'invito. Partiamo dal Comitato di Quartiere Creazione, ce ne parli? Io appartengo a questo comitato, sono un'associata, è un comitato giovane, nato circa un anno fa, che riunisce artisti, artigiani, creativi a vario titolo che risiedono nel quartiere di Monteverde o hanno il loro studio nel quartiere di Monteverde, e siamo tutti uniti dal desiderio di operare nel modo più positivo possibile per il nostro quartiere e di fare rete tra noi per in qualche modo far emergere questo tessuto artistico che percorre il quartiere, che spesso non è sufficientemente visibile, non è notato, perché gli studi magari sono in strade non molto frequentate, però ognuno di noi ha la sua peculiarità, ognuno di noi ha delle caratteristiche interessanti e quando ci uniamo riusciamo a potenziarle anche. Non sono infrequenti le iniziative in cui in qualche modo ci consorziamo e inventiamo delle iniziative nuove. In poco più di un anno, quasi una decina di iniziative. Sì, sì, le più recenti hanno dimostrato che il quartiere risponde molto bene a questi stimoli. C'è bisogno, desiderio di entrare in relazione gli uni con gli altri, la cittadinanza aspetta che vengano create le occasioni giuste per condividere anche dei valori che possono essere estetici, etici o semplicemente appunto dei valori d'arte di spessore. E, insomma, questo mi sembra che faccia a tutti molto molto piacere, cioè un buon riscontro alla bontà dell'iniziativa di creare questo comitato. Sei tra le organizzatrici di questo evento a Villa Sciarra, ce ne parli? Questo è un evento, la mia idea di ormai qualche anno, ho sempre pensato che Villa Sciarra avesse la vocazione per ospitare un evento di arte contemporanea e ne abbiamo parlato in varie occasioni e alla fine ci siamo decisi a creare questa serata di arte e di musica insieme, perché è un momento estivo, naturalmente va celebrato anche nella sua gioiosità e leggerezza. Sarà una serata all'insegna dell'arte, nel senso che ci saranno delle installazioni a Villa Sciarra dall'ingresso di via delle Mura Gianicolensi, andando verso la zona al di sopra del Casino Barberini, dove c'è il tempietto in ferro battuto, e queste installazioni dialogheranno a vario titolo con la villa, con i suoi elementi naturali, penso Maria Grazia Morsella, Daniela Monaci, Caterina Pinna, Tania Vels, Elena Binni, o con la sua storia, Monica Sarandrea, che riporta in vita in qualche modo le origini antiche della villa, eventi partecipativi come quelli di Francesca Di Ciaula, che in qualche modo chiama il pubblico a interagire con lei, e altri invece che intervengono su monumenti fontane di Villa Sciarra come quelli di Evelyn Balì, Umberto Ippoliti e anche il mio, perché oltre diciamo, a curare l'evento presenterò anche alcune mie ceramiche. Com'era venuta l'idea? L'idea si inserisce nell'alveo di una tendenza ormai molto chiara verso il potenziamento, lo sviluppo dell'arte ambientale, cioè intervenire in luoghi aperti, in natura, in boschi, in giardini, sicuramente con un impulso molto forte dato dal Covid e dalla necessità comunque di poter fare arte anche al di fuori dei luoghi canonici, ma in più in generale è un modo anche diverso di entrare in relazione con gli spazi aperti che normalmente viviamo in modo forse anche un po' superficiale, ma che invece possiamo in qualche modo anche noi secondare, cambiare con il nostro intervento, con la nostra presenza, mettere degli accenti, far vedere delle cose che normalmente non vengono visti e perché no anche stimolare, questo è il caso di Villa Sciarra direi, la politica che è preposta insomma a intervenire per arginare laddove c'è un degrado o comunque un'incuria che insomma è della bellezza di questi luoghi. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Potete trovare le informazioni sul profilo Instagram e Facebook del Comitato Creazione e anche degli amici di Villa Sciarra, che ho dimenticato di nominare perché anzi è molto importante questa associazione che da anni cura Villa Sciarra, e in questo caso questa mostra, con anche l'intervento di un trio jazz che è la Scoop Jazz Trio, sarà la prima occasione per mettere in relazione il Comitato Creazione e gli amici di Villa Sciarra, e quindi trovate tutti i riferimenti sia sul profilo Instagram di Comitato Creazione e amici di Villa Sciarra, così come su Facebook. Evento artistico Open Villa Sciarra a Roma, Villa Sciarra, giovedì 20 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Eugenia Querci del Comitato di Quartiere Creazione. A presto! Grazie a voi. Con Barbara Dante, curatrice della rassegna di incontri, prendiamola con filosofia. A Roma, all'interno dell'arena Notti di Cinema Piazza Vittorio, il mercoledì dal 5 luglio a settembre 2023. Ben trovata! Grazie Federico, ben trovato! Di cosa si tratta? È una rassegna sulla filosofia. Abbiamo scelto degli ambiti diversi, ma sempre facendo riferimento alla filosofia, perché è la disciplina che più delle altre stimola la capacità di pensare delle persone, stimola un pensiero critico e una consapevolezza. Com'è nata l'idea? L'idea è nata da una collaborazione con l'ANEF Lazio e con la volontà di trovare un tema che appunto fosse interessante per le persone, ma che venisse affrontato in modo da essere comprensibile per tutti. Quindi sono gli argomenti trattati non per un pubblico di specialisti, ma per un pubblico appassionato, perché quando si offrono contenuti di qualità le persone mostrano un interesse che veramente in alcuni casi è insospettabile. Com'è stata la scelta degli ospiti, degli interlocutori? È avvenuta appunto scegliendo dei personaggi provenienti da ambito accademico e culturale italiano e con formazioni molto, molto diverse, proprio per affrontare il tema in modo multidisciplinare e quindi affrontando le varie sfaccettature per offrire una panoramica globale a 360 gradi. Quali aree tematiche avete individuato? La filosofia con dei grandi filosofi proprio della storia della filosofia, quindi si parlerà di Socrate, di Parmenide, di Eraclito, ma nello stesso modo abbiamo voluto inserire anche degli scienziati e quindi affrontare attraverso i loro studi le nuove visioni dell'origine della vita. Quindi abbiamo invitato per esempio il professor Pierluigi Luisi, che è un biochimico e che ha parlato della visione sistemica della vita, quindi dell'interrelazione di tutti gli elementi della vita. Poi parleremo anche dell'avventura di Pinocchio, di come la fiaba può essere riletta in chiave filosofica e anche con sfumature spirituali, e anche delle contaminazioni con il mondo, diciamo con la psicologia, attraverso il mito di Psiche, che affronteremo con il professor Aversa. Con Edoardo Camurri invece parleremo dell'intelligenza, di cosa può essere definito come intelligenza, e anche della filosofia dei consumi e della pubblicità con Marco Ferri, che è un copywriter che ha diretto agenzie pubblicitarie molto importanti e multinazionali. Quindi, come vedi, è un approccio veramente molto ampio. Com'è strutturato ogni incontro? Con una introduzione che viene fatta da Adriano Ercolani, che è il moderatore della rassegna, poi c'è l'intervento del relatore, che è una vera e propria lezione breve di 30-40 minuti, e dopo ci sono delle domande che vengono rivolte dal moderatore, ma molto spesso anche dal pubblico, quindi c'è un'interazione diretta anche con le persone presenti. Come sono andati i primi incontri? Sono andati molto bene, ne abbiamo fatti due per ora, il prossimo sarà appunto mercoledì 19, e sono rimasta veramente stupita, perché io la rassegna la immaginavo come una lezione, diciamo, del relatore e poi magari degli interventi del moderatore, mentre ho visto che il pubblico si è fatto proprio avanti di sua fonte e è intervenuto direttamente e si è animato un dibattito veramente interessante. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere il programma? Sì, il programma è disponibile su tutti i canali social della Libreria Rotondi, quindi andando sul sito libreriarotondi.it, sul canale YouTube, su Facebook, e il nome della rassegna, ripeto, è Prendiamola con Filosofia, e lì troverete tutte le informazioni, cioè l'appuntamento di mercoledì prossimo e poi riprendiamo con i primi due mercoledì di agosto e i primi due mercoledì di settembre, sempre all'Arena Cinema di Piazza Vittorio alle ore 19 e sempre di mercoledì. Aggiungiamo che tu, oltre a curare questa rassegna, hai anche una libreria storica a Roma. Sì, è la libreria Rotondi, si trova in via Merulana, e è riconosciuta storica dal comune e sui testi nuovi è specializzata in filosofie, oriente, e religioni, spiritualità ed esoterismo, e poi ha un ampio catalogo di libri rari pregiati di tutti gli argomenti, quindi è una libreria in cui convivono due anime molto diverse e che ha mantenuto gli arredi, la struttura delle origini, quindi è un luogo dove quando si entra si perde il senso un po' del tempo e dello spazio e si può finalmente dedicare un po' alle proprie interessi, alle proprie passioni e si stacca con tutto il trambusto del quotidiano. La rassegna di incontri Prendiamola con Filosofia a Roma all'Arena Notti di Cinema Piazza Vittorio il mercoledì dal 5 luglio fino a settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Barbara Dante. A presto! A presto Federico, ciao! Con Riccardo Mannelli per presentare il suo libro Satira Madre a Roma, al Vivaio Albero Blu, venerdì 21 luglio 2023. Ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Cos'è questo libro? È un libro, guarda un po', di satira, cosa rarissima di questi tempi, quasi una leccornia rara. E satira a tutto campo come non facevo da diversi anni, quindi sono molto contento di aver avuto l'occasione per poterlo fare. Ci sono molte vignette del Fatto Quotidiano di questi ultimi 10 anni e la metà del resto sono lavori esclusivi, inediti, che ho fatto apposta per questa occasione. Quindi questo miscuglio fra la vignetta e la tavola più approfondita compone il plot di Satira Madre. Com'è stata la scelta dei lavori? Più o meno è stata abbastanza facile perché è dettata solo a livello emozionale. Quelli che mi piacevano di più, quando pubblicate le vignette del Fatto e altre cose, quelli che mi piacevano di più e quelle che in qualche modo mi servivano da trade union con i lavori nuovi, con i lavori inediti, per cui ho preso una buona metà delle vigne di questi ultimi 7-8 anni, perché alla fine le pagine del libro sono tante, sono 160, per cui alla fine mi hanno permesso di fare un lavoro abbastanza esaustivo dell'ultimo periodo. Mi sono divertito il doppio perché le vignette non sono in ordine cronologico, quindi il miscuglio si raddoppia. Ho voluto mettere in moto questo meccanismo di orizzontalità che secondo me è un po' il segnale del nostro tempo. Tutto sullo stesso piano, tutto sullo stesso valore e tutto sullo stesso momento storico. Ormai sono quasi 20 anni che si vive nel presente, quindi mi sembrava giusto fare in questo modo. Per chi è più giovane all'ascolto, come racconteresti in breve il tuo percorso artistico? 50 anni di vita, in breve posso dire mi sono divertito, ecco, la cosa più normale che mi viene in mente. Per il resto, come dico spesso anche ai miei allievi allo IED, tenete presente che artisticamente non bisogna avere limiti, quindi io sono stato uno dei purtroppo ancora rari artisti contemporanei che hanno zompettato tutta la vita fra la pittura, la vignetta, l'illustrazione, le tavole e qualche volta perfino il fumetto, che non amo tantissimo. Quindi ecco, forse la caratteristica che più mi riguarda è quella della contemporaneità d'espressione, diciamo così, di andare su campi diversi, sempre per quel che riguarda la figurazione, sempre per quel quel che riguarda il discorso disegno e dintorni. Ho fatto anche qualche tentativo di animazione, ho fatto anche un po' di plastica negli anni, cioè sculture, bassorilievi, terracotte, molta incisione e qualche cortometraggio cinematografico. Com'era cominciata la tua avventura nella satira? Da disegnatore, qual ero già da ragazzo, fin da bambino. Tu sai che si nasce disegnando, poi c'è chi si perde per strada. Io ho sempre disegnato, poi a un certo punto già dipingevo, tarda adolescenza, 17-18 anni. E casualmente sono incocciato in queste prime pubblicazioni che all'epoca non erano satiriche, erano un po' fumettini umoristici, cose del genere. E avendo da sempre necessità di sfangare la giornata, capii verso i 18-19 anni che l'editoria pagava subito all'epoca, rispetto alle gallerie o altre cose, e quindi soldi in bocca e slurp. Quindi è stata un po' la satira che ha trovato me, non io che l'ho cercata. Poi è anche l'indole con cui uno nasce, anche a livello esistenziale, a scuola, dopo, nelle compagnie, ero sempre quello in qualche modo che aveva la trovata, che aveva l'idea per il divertimento comune. Sai che c'è sempre il rompicoglioni, no, nel gruppo. C'è il ciccione, c'è quello buono, c'è la merda e poi c'è il rompipalle, quello che prende un po' per il culo tutti. Quindi il discorso satirico poi mi è venuto congeniale per certi aspetti. Com'è cambiata, come sta cambiando anche la satira nel corso dei decenni? A me non sembra per niente. Tu vai a vedere Daumier, per esempio, del 1850, se l'avesse fatto ieri sarebbe uguale. Al di là di una certa estetica che un po' stigmatizza l'epoca, ecco, diciamo così, un certo tipo di disegno, quello magari denota e ti fa notare un po' l'origine, quindi un certo periodo storico, ma neanche più di tanto, perché poi il disegno, l'arte è sempre fatta di corsi e ricorsi, di under rianda, come si dice nel pistoiese basso. Le cose tornano, spariscono. Io quando cominciavo a dipingere negli anni 70, sai benissimo che il figurativo era come fare un crimine, un furto con scasso, una rapina in banca, ecco, ti trattavano allo stesso modo, andava al concettuale, l'informale, domande così. Poi adesso sono 20 anni che non si vede che figurazione, anche a certi livelli abbastanza patetica, però comunque io non vedo cambiamenti. C'è una bella postfazione che ha fatto al libro Tommaso Montanari, dove appunto per introdurmi parla di Giovenale, per cui figurate un po', il discorso è sempre lo stesso fondamentalmente, le tematiche sono identiche, l'uomo, i vizi, le virtù. Poi, sai, ci può essere, ripeto, un po' di novità nel segno, in certe sperimentazioni. Adesso c'è anche l'aiuto delle tecnologie, però, insomma, siamo lì, è la stessa cosa. Non vedo nessuna differenza, anzi, molto spesso mi piacciono più gli autori di 50 anni fa o di 100 anni fa. Per saperne di più sul tuo lavoro in rete c'è un sito... C'è riccardomannelli.it, il mio sito. La presentazione del libro Satira Madre a Roma, al Vivaio Albero Blu, venerdì 21 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Riccardo Mannelli. A presto! A presto, a venerdì, grazie. Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro, ma anche agli eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Dunque, cominciamo come di consueto dal Teatro Tor Bella Monaca, perché continua l'Arena Estate Tor Bella Monaca Teatro Festival. Questa settimana andiamo a vedere, oddio, non è proprio così detto tra di noi, e gli spettacoli proposti in questa settimana siano così esaltanti sulla carta, però io qualcosa la segnalo. Intanto sicuramente giovedì 20 e 21 mi fa piacere che si porti di nuovo attenzione sulla poesia romanesca, la scoperta dell'America e storie da Osteria, da appunto testi di Cesare Pascarella, in questo caso con l'adattamento di Stefano Messina e con musiche originali in scena, insomma, la poesia dialettale romana non passa mai di moda. Per quanto riguarda invece venerdì 21 e sabato 22 andremo a vedere una produzione del Teatro delle Maschere con la direzione di Gigi Palla, si tratta di STQR, il plebeo patrizio, quindi chiaramente andiamo a parlare del Civis Romanus del tempo dell'impero, anche in realtà un po' prima, però la Roma repubblicana, insomma. E questo è quello che diciamo maggiormente abbiamo seguito a Bella Monaca questa settimana. Poi segnalo un po' di cose, un po' di rassegne che continuano, e io partirei da quella che forse va a concludere questa settimana, ovvero sia Circo in Festa al Teatro Torlonia per quest'ultima settimana. Abbiamo un paio di spettacoli che vado a ricordare, e precisamente le gag e i trucchi di Eccentrici da Garò, il loro, insomma, l'altro trasformismo che in qualche modo mette in scena la vita, con lo spettacolo In Comica 22-23 luglio appunto al Teatro di Villa Torlonia. Mentre invece ancora questa sera per osservare Circo Vertigo, il collettivo di circo appunto che presenta Fili Invisibili, cioè l'esplorazione della passione per la natura di Italo Calvino, questo, diciamo, nell'ambito di Calvino 100, che sono un po' i festeggiamenti per l'anniversario calviniano. Mi fa piacere ricordare anche che c'è l'arena anche al Teatro India, quindi questa è la terza arena già di cui parliamo, l'arena al Teatro India, che però è dedicata esclusivamente o quasi esclusivamente al cinema. Per quest'ultima settimana andremo ad occuparci di un grande, di un omaggio a uno dei più grandi personaggi dell'arte a Roma, l'attrice premio Oscar per La Rosa Tatuata, Anna Magnani, che insomma, per noi italiani, per me romano, insomma, è effettivamente un riferimento che va ben oltre il premio Oscar ricevuto per quel film. E dunque giovedì 20 apriremo con Roma Città Aperta, con Roberto Rossellini, appunto forse il primo grande ruolo di Anna Magnani, quello per cui probabilmente è ricordata in eterno. Successivamente il venerdì 21 andremo a vedere l'altro grande iconico ruolo, cioè quello di Mamma Roma di Paolo Pasolini, siamo nei primissimi anni 60, se non sbaglio nel 63. Il 22 luglio invece andremo un po' più avanti nel tempo per vedere la Magnani che fa la Magnani, ecco, diciamolo un po' così, come diceva lei, in Roma di Federico Fellini, mentre domenica 23 chiudiamo con Risate di Gioia di Mario Monicelli, insomma con la prima e unica volta sul grande schermo della coppia Magnani Totò. E quindi insomma è imperdibile questa settimana per chi ama il cinema italiano e non solo. E poi andiamo un po' a vedere altro. Questa settimana continua, appunto, conclude il Roma Fringe Festival in tre spazi, ricordiamo, Teatro Vascello, Teatro Parioli, Sala Umberto, e questa è appunto l'ultima settimana in cui gli spettacoli in concorso vengono presentati, e qui ti invito ad andare a vedere il sito per precisione, perché chiaramente ogni spettacolo ha due orari, due giorni diversi incastrati nei vari spazi, quindi insomma occorre dare un'occhiata. Io forse segnalo giusto una compagnia che ben conosco, quella diciamo diretta da Giacomo Ferraù, che con la drammaturgia di Fabio Banco porta Patria, il paese di Caino e Abele, a Teatro Parioli domani e dopodomani, ma insomma ce ne sono altri spettacoli. Segnalo semplicemente che quasi 80%, diciamo, almeno degli spettacoli di questa settimana è comunque proveniente da Roma, quindi è un caso un po' indicativo, insomma, quantomeno di un Fringe Festival un po' a trazione locale, possiamo dire, con qualche apertura all'esterno, almeno per questa settimana. E poi andiamo a dire, comincia l'avventura per tutta la settimana, del tutto in 12 minuti, cioè Pillole, la rassegna di Fortezza Est, che indaga, diciamo, i progetti, le nuove proposte per l'anno successivo. E poi mi preme parlare, sì, sicuramente del Teatro dell'Opera, che alle Terme di Caracalla il 21 luglio alle 19 presenta questo Sonno Giapponese, questo lavoro di Cristiano Leone con i testi del purtroppo scomparso molto presto poeta Gabriele Galloni, Isabella Carloni in scena per appunto approfondire da questi racconti poetici il rito, l'estate, l'amore, il tabù, la morte, il sesso, gli angeli, la divinità, insomma tutto ciò che rappresenta i grandi temi dell'umanità attraverso appunto questo sonno giapponese. E 21 luglio, ore 19, alle Terme di Caracalla. Ancora mi fa piacere segnalare che sotto l'Angelo di Castello, per Sant'Angelo, presenta il 19 luglio alle ore 21 un bellissimo appuntamento, cioè un grande attore italiano, Roberto Latini, che legge la grande poesia, ovvero sia Mariangela Gualtieri, La delicatezza del poco e del niente. Appunto si tratta di Castel Sant'Angelo, sotto l'Angelo di Castello, e la rassegna a cura di Anna Selvi. E vi invito ad andarla a vedere, perché io l'ho già visto ed è davvero, davvero magico. E segnalo appunto soltanto l'ultima cosa, cioè sempre più fuori, alla terza edizione appunto della rassegna curata da Crampi, all'Accademia Tedesca di Roma, Villa Massima, al Goethe Institute. Questa settimana vedremo un bel po' di cose interessanti e le vado così ad elencare. Dunque, intanto parte la mostra fino al 5 luglio, ma insomma alla Goethe Institute, la mostra installazione di Bruno Esposito a cura di Zerinzia, mentre il 19 luglio alle ore 21 all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo andiamo a vedere la performance teatrale di Motus, Camille del Sex, con Silvia Calderoni, che poi farà un'esibizione musicale in DJ set dopo lo spettacolo. Beh, insomma, perché no, anche in cinema abbiamo citato Anna Magnani, come non citato Alberto Sordi, 20 luglio per proiezione a Goethe Institute delle Vacanze Intelligenti. Ma torna il teatro intanto con l'Azione Urbana negli spazi dei giardini di Villa Massima il 21 luglio alle ore 18 e poi 21 e 22 luglio sempre a Villa Massima Teatro Naturale, io, il Couscous e Albert Camus, Teatro delle Ariette, presenta i suoi spettacoli culinari in qualche modo, insomma questa volta dedicato al couscous e perché no ad Albert Camus. Mentre invece lunedì, visto che insomma non ci sarà tempo per parlarne, sempre a Villa Massima uno spettacolo importantissimo, Alessandro Sciarroni, che è stato anche leone d'argento alla Biennale di Venezia, il 24 luglio alle ore 19.30 presenta Save the Last Dance for Me, uno dei suoi spettacoli più importanti. E quindi questo è quanto per questa settimana, direi che è tutto. Ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo L'Isola di Ethel Fugard, John Cani e Winston Shona, traduzione e regia Marta Gilmore, con Oscar De Summa e Armando Iovino.